La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 18 e 6 minuti, 800 24 00 24, 18 20 e 30 l'orario per stare insieme e nell'attesa dei vostri interventi come ogni sera è questo, la Zanzara Estate insieme a Cristian Goldoni, Laura Faggini, redazione. Se è anche a causa loro se le cose che ascoltate vi piacciono o non vi piacciono, quindi se non vi piacciono insomma, vedetevela anche con loro, non solo con me. Valeria Bernardi in regia. Allora iniziamo a parlare. Abbiamo trovato la musica? Sì, allora iniziamo. Ripercorrendo, riascoltando Formigoni al meeting di Comunione e Liberazione, vi lancio questo quiz. Trovate la balla più grossa tra quelle, a meno che, messo che siano balle, o la balla tra queste affermazioni di Formigoni. Prima. Un giorno ero in chiesa, la domenica, la messa vespertina, davanti a me c'era una coppia di anziani, di vecchietti, si voltano al momento dell'abbraccio della pace, mi riconoscono, poi si girano, io ero dietro di loro, confabulano un po' tra di loro, poi la donna si rivolta verso di me, io mi chino verso di lei, mi dà una carezza e mi dice: Presidente, sappia che c'è tantissima gente, anche non del suo partito, che sa che lei è onesta, che sa che lei non è corrotto, che le vuole tanto bene e che le dice di andare avanti. Questa è bella, è raccontata bene in 20 secondi, è persino credibile, tanto credibile che ha tutte le caratteristiche per essere una palla. Ma insomma, i politici lo fanno, è normale. Quest'altra invece, hanno titolato tutti i giornali, è difficile definirla una palla perché insomma tira in ballo un personaggio piuttosto importante. Sentiamo. Io ero lì come presidente di regione, mi sono fatto avanti assieme ai colleghi presidenti di regione del War Region Forum, avevamo redatto una carta della famiglia insieme, c'era una regione argentina, una spagnola, un inglese, una canadese, gli portavamo questa cosa, vado avanti, non faccio tempo a dire una parola, il Papa mi guarda e mi dice: io prego tutti i giorni per lei. Sono rimasto sconvolto. Anche noi. Ho potuto dirgli grazie santità perché ne ho bisogno. Anche noi siamo rimasti sconvolti da questa affermazione di Formigoni. Tutti sono rimasti sconvolti, però ripeto, qua è difficile insomma smentire perché certo il Papa non c'ha altro da fare che pregare per Formigoni. Evidentemente ha tempo per pregare per tutti, anche per Formigoni, è giusto. Del resto, ognuno ha, insomma, il Papa ha una parola buona per tutti. L'ultima è quella su Don Giussani ed è la più clamorosa. In tutto questo periodo ho percepito anche un vecchissimo amico che mi aveva voluto tantissimo bene quando era vivo e che in questi mesi si è dato moltissimo da fare in paradiso per me. Alludo a Don Luigi Giussani. Vabbè, lui è il venerabile, ha percepito, lui può percepire. Questa era una battuta, credo, anche se detta con questo tono, sembrava più una, appunto, una captazio, non so come dire, insomma, una... Vabbè, ha chiamato Don Giussani in sua difesa. Poi però c'è stata una parte in cui Formigoni ha confermato di fronte a una platea importante come quella del meeting di Comunione e Liberazione che qualcosa nel suo operato non è andato liscio, non è andato tutto come avrebbe dovuto, qualcosa ha sbagliato. Ho detto che non rifarei a distanza di 3 anni, 4 anni vacanze ai Caraibi che comunque mi sono pagato di tasca mia, ma che è opportuno non fare, soprattutto per un politico e per uno che è stato educato alla concezione di politica che ho io. Non le rifarei, di questo mi rammarico, ma so ben io quello che ho fatto e posso dirvi a fronte alta che nulla di ciò che ho fatto è contrario alla legge. E ancora? Posso aver sbagliato i toni, posso aver sbagliato le parole, anzi tagliamola corta, ho senz'altro sbagliato. Ve ne chiedo scusa, ma ho sbagliato perché non volevo permettere che contro l'esperienza straordinaria che la squadra di Regione Lombardia ha costruito e soprattutto contro l'esperienza straordinaria che mi ha generato fossero buttate tonnellate di fango ingiuste e ingiustificate. 800 24 00 24, ripeto, vi chiediamo di intervenire e di dirci: riconosci la balla tra queste tre affermazioni, non queste ultime due, ma le prime tre. Formigoni ha detto: ho incontrato due vecchietti in chiesa che mi hanno detto siamo tutti con lei. Potrebbe essere vera, potrebbe essere una balla, così giusto per far vedere che c'è il sostegno. Il Papa prega per me. Oppure terza, ho percepito Don Giussani che si è mosso dal paradiso in mio favore. 800 24 00 24. Passiamo al ministro Fornero, anche lei al meeting di Rimini, ma risentiamola questa mattina a Radio Anch'io. Ha parlato di varie cose, come sempre naturalmente le cronache le avete sentite anche dai telegiornali, e poi ha parlato di un piano, un'azione per i giovani. Sentiamo. Quindi è corretto dire, ministro, che ci sarà una sorta di piano giovani in questa agenda d'autunno? Sarà una delle vostre priorità? Sì, direi di sì. Non ci si deve aspettare qualcosa di eclatante, ma dovrà essere un'azione molto microeconomica, molto territoriale, da cui noi speriamo molti giovani potranno dire: beh, questo sì, passo è stato realizzato, questo risultato è stato raggiunto, ho avuto questa opportunità. Niente di eclatante, dice la Fornero, per tranquillizzarci. No, ma noi saremmo tranquilli anche se faceste qualcosa di eclatante per i giovani, anzi ci piacerebbe. E lei però precisa ancora: sarà un'azione minuta. Che vuol dire? Sentiamo. Un'azione nel micro, molto minuta, molto controllata e monitorata, dove spendiamo non una quantità eccessiva di risorse, ma le spendiamo bene proprio per l'occupazione dei giovani. Sì. 824 0024. Poi c'è il capitolo oggi, come non parlarne, della conferenza stampa di Antonio Conte, che ha definito agghiacciante la procura. In effetti il giudice che è uscito e che ha raccontato subito la sentenza, prima ancora che fosse emessa quasi, è un po' agghiacciante. Però era veramente agghiacciante anche la faccia di Conte, stravolto, che ha rilasciato dichiarazioni che, insomma, come commentarle? Mancanza di eleganza, mancanza di stile, mancanza di savoir-faire, incassare una squalifica per cui aveva già patteggiato 10 mesi, insomma, non è la fine del mondo. Ma sentiamo, sono allibito. Sono rimasto allibito dall'intervento di un componente della commissione che mi ha giudicato. Un qualcosa di grave, di qualcosa di mai visto. Vedo un signore che forse, per uscire sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali, grazie a me e al mio nome, prende e fa delle dichiarazioni quantomeno inopportune. Non so se da tifoso, ma sicuramente inopportune. Da tifoso, a meno che non si creda che tutti i giudici sono interisti, giudici sportivi, allora mi sembra che tirare in ballo questo da parte di Conte non c'entri davvero nulla. E poi sentiamo anche il passaggio sulla la procura agghiacciante. La sapete la procura federale? I metodi della procura federale? Li avete letti? Forse sono passate inosservate le interviste di Locatelli, di Poloni? A me no. Locatelli e Poloni che dicono? Non abbiamo detto quello che volevano sentirsi dire, non abbiamo messo dentro nomi importanti per abbassarci la pena. Questo dicono. Agghiacciante quello che dicono. Agghiacciante quello che dicono. Però questo non interessa. Ai giustizialisti non interessa questo. Non interessa il modo di fare. Chi ha la procura? C'è anche una parte, la sentiremo magari più avanti, nella quale Conte se la prende quasi coi suoi avvocati perché l'avevano fatto patteggiare. Anche questo è francamente incomprensibile. Sembrava Schwarzer, la faccia era la stessa, stravolta, quando si è messo a piangere dicendo: è stato terribile doparsi, è stato sbagliato soprattutto. Allora, se ha sbagliato a patteggiare Conte, non deve venire a lamentarsi di questo in conferenza stampa, perché davvero questo diventa ridicolo. Titoli di Sky TG24 e poi iniziamo con gli ascoltatori. La furia di Conte, dai giudici cose mai viste, calcio scommesse, una vicenda assurda, sparatoria fra i bagnanti a Terracina vicino a Latina, un morto e un ferito. Borse in calo, spread in salita, pesano le richieste di sussidio negli Stati Uniti. La crisi in Grecia con Samaras che risponde alla Germania, basta speculazioni sul nostro futuro. Fornero al meeting di CL, restituire dignità ai giovani, buste paga troppo tassate. Roghi senza fine in Italia, incendi quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno. La mattanza in Siria, più di 200 vittime in 24 ore, la denuncia arriva dalle associazioni non governative. Niente fumo, siamo australiani, il governo vuole vietare sigarette ai nati dopo il 2000. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo. Adesso facciamo la pausa per il traffico. La Zanzara. 18 e 16 minuti. Ieri sera abbiamo ingaggiato una specie di braccio di ferro con un consigliere comunale di Pescara sulla questione dei biglietti gratuiti che non saranno più concessi ai consiglieri comunali, agli assessori e ai dirigenti comunali, insomma, della città di Pescara. Una decisione per la quale loro si sono un po' ribellati chiedendo di rivedere la concessione col Pescara Calcio, eccetera. Una decisione che è stata presa anche a Firenze e a Bari. Invece oggi sulla cronaca milanese di Repubblica leggiamo che Milano ha deciso una via di il Comune di Milano rivedere queste concessioni di questi biglietti, ma non toglierli. Salutiamo Chiara Bisconti, che è assessore allo sport del Comune di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, la domanda è questa: perché avete fatto questa revisione? Adesso lei poi ci dirà rispetto al passato che cosa cambia, però resta questa cosa dei biglietti gratis per i dipendenti comunali, gli assessori, i consiglieri, i dirigenti, c'è tutta una casistica, una cosa che, non lo so, francamente credo che la maggior parte degli italiani si domandino perché questo deve rimanere, Visconti. Allora io provo a riassumere la nostra analisi. Noi abbiamo da convenzione con le società che gestiscono lo stadio, che è di proprietà comunale, 320 ingressi gratuiti a partita. Fa parte di una convenzione articolata per la gestione dello stadio, quindi non è un costo vivo che sostiene il comune, ma è un'opportunità di utilizzo di un nostro bene. 320 sono tanti, perché spesso, a parte qualche partita, non vengono utilizzati. La realtà è che molto spesso rimangono nei cassetti e soprattutto fino ad oggi è mancata un'attribuzione trasparente di questi biglietti. Allora la scelta è stata di dire, a fronte di una numerica comunque vasta, provare a diffondere nella città, far sì che questo beneficio, questa opportunità di andare allo stadio sia il più possibile allargata alla città, e quindi più di 160, una parte importante di questo numero di biglietti sono stati attribuiti a, per quest'anno, in questa prova sperimentale, a quattro soggetti diversi: i dipendenti comunali, che potranno partecipare con estrazione, con sorteggio all'attribuzione di 50 biglietti, le scuole milanesi per altri 80, i centri di aggregazione per anziani gestiti dal comune per anche quella differenza di una quarantina di biglietti, e una piccola parte per un progetto legato alle carceri e quindi la polizia penitenziaria. Con l'obiettivo, ripeto, di diffondere nei cittadini diversi questa possibilità. E fin qua mi sembra tutto chiarissimo e anche molto condivisibile questa. Però poi c'è l'altra parte di cui ci dirà: 150 biglietti che invece restano e che secondo me, lo dico subito, potevano essere tutti questi 330 biglietti, potevano essere suddivisi nelle categorie che ci ha appena detto, molto meritorie. Più meritorie, credo, dei consiglieri comunali, che non si capisce perché dovrebbero avere questo privilegio sempre loro, e soprattutto perché. Sì, io l'altra parte, dove rispetto al passato quello che abbiamo introdotto è un principio di responsabilizzazione, nel senso che questi biglietti nominali avranno stampato il nome sopra dell'avente diritto, e quindi c'è un processo di responsabilizzazione per evitare il fatto che la gratuità possa finire in giri di rivenduti poi ad altri. Sì. Rivenduti, esatto, ok. Io non essendo un costo vivo per il comune, non trovo scandaloso, anzi trovo invece accettabile il fatto che chi ha un incarico istituzionale e quindi rappresenta la città o lavora per la città in modo dedicato, in modo appunto sia per elezione o nel mio caso invece per scelta, lavora per la città, possa accedere, ripeto, senza alcun aggravio di costo per nessuno, a un bene comunale. Lo stadio è nostro e quindi credo che chi appunto ha un ruolo di un certo tipo e può, e quindi ha delle responsabilità e fa delle decisioni, possa accedere a un bene nostro. Chiaro che questa cosa va accompagnata con questa fruibilità del bene, che è comunale, anche ad altra parte della città. A me sembra un criterio che abbiamo provato a sperimentare per quest'anno: A, di diffusione, e B, di responsabilizzazione diretta di chi va. È chiaro che è tutto perfettibile. Io parto dal fatto che ad oggi la realtà è che la maggior parte di questi biglietti non vengono utilizzati, e così invece ci sarà un grosso innesto nella città per far andare più persone allo stadio. Tra l'altro, Si poteva avere un pochino forse più di coraggio, andare un pochino più in fondo, perché lei stessa, mi sembra, dice i criteri devono essere quelli della trasparenza, quelli del offrire alla cittadinanza questo benefit che al comune non costa nulla, In realtà, sì, secondo me, un comune, un costo indiretto ci potrebbe essere, perché... E le riporto il caso di cui abbiamo parlato ieri sera a Pescara, non so se è la stessa cosa a Milano, perché adesso che il Pescara Calcio ha tolto i biglietti, gli abbonamenti omaggio per i consiglieri comunali, adesso il comune sembra che stia ingaggiando una battaglia con col Pescara Calcio per fargli pagare più tributi per la gestione del suolo pubblico e per quello che riguarda la concessione proprio dello stadio. Allora io dico, voi che siete i concessionari, non perdete incredibilità nel momento nel quale accettate questi omaggi invece di girarli alla cittadinanza e di lasciarvi le mani libere? Cioè, si controlla non entrando allo stadio la domenica, ma controllando la concessione, controllando i tributi e facendo questa parte del lavoro, non andando allo stadio la domenica. Cosa si controlla? Mi scusi. No, però scusi, non è che sono gratuità date così, sono parte di una convenzione, tra l'altro trentennale, comunque firmata con le squadre che gestiscono lo stadio, quindi sono assolutamente regolamentate all'interno di un rapporto di scambio, cioè lo stadio viene dato per una serie di condizioni che il comune incassa, quindi dai soldi ai biglietti omaggio a tutta una serie di altre delle giornate gratuite, una serie di, diciamo, di capitoli della convenzione, quindi non c'è nulla di non definito, è tutto chiaro alla luce del sole e fa parte della convenzione. Sì, sì, ma assessore, però se sui piatti della bilancia... Il discorso che fa lei può essere di dire rivediamo completamente la convenzione, il discorso, esatto, dei 320 biglietti, no, questo può essere un passo da esplorare, però prima di perdere i 320 biglietti che sono... No, ma anche senza perderli, potevano essere girati a chi non ha interessi in questa faccenda, cioè cittadini che non c'entrano nulla con chi è concessionario e chi invece poi detiene i benefici di questa concessione, cioè lo stadio e il comune. Cittadini qualunque, perché il consigliere comunale sarebbe un po' come se non pagaste la metropolitana perché è una partecipata o cose di questo genere, no? Sì, io non ci vedo conflitti di nessun tipo. Io vedo, ripeto, a me quello che preme è che questi biglietti vengano veramente utilizzati, perché lo stadio di San Siro spesso è vuoto e spesso è frequentato, diciamo, da categorie di popolazione che ci vanno con un approccio che potrebbe essere perfettibile, e allora mandare le scuole, mandare fette di popolazione che non ci vanno in modo particolare ma vanno una volta ogni tanto, aiuta anche a far sì che il clima all'interno dello stadio sia diverso. Non vedo, anche per mia estrazione personale ma per scelta, nessun tipo di privilegio nel fatto che una persona che rappresenta, lavora per il Comune di Milano possa accedere a un bene del Comune di Milano. Importante che sia, ripeto, ma è la stessa cosa, però mi scusi, un bene del Comune di Milano, allora anche la metropolitana, anche quando le aziende partecipate forniscono gas e luce, uno dice ho accesso a sconti sulle bollette perché sono del comune, però non è così. Allora questo dovrebbe accadere per i cittadini che sono titolari esattamente come i consiglieri comunali della proprietà. Infatti, pubblica la scelta di questa giunta, che tra l'altro, sì, mi permette di fare solo una piccola, sì, aggiunta, il fatto che questa è la prima giunta che di fronte a 50 posti di tribuna autorità che sono stati, sì, contesi, noi ne abbiamo restituiti 30, ne abbiamo lasciati solo 20 per rappresentanza istituzionale del comune, che è un'altra legittima. No, ma che si stiano facendo dei passi in avanti su queste questioni probabilmente anche a Pescara, e ieri l'abbiamo messo in croce, però si poteva avere più coraggio e fare di più, anche perché su una cosa volevo poi domandare, poi la faccio finire. Il fatto che si dice questi biglietti saranno nominali, si responsabilizzano le persone, poi se vogliono mandarci altre persone, il consigliere comunale o l'assessore o il dirigente che vuol mandare una scolaresca piuttosto che amici suoi, eccetera. Però sembra quasi un'elemosina, no? Cioè io ce l'ho io, però poi te lo do in uso, però il titolare sono io. Non c'è anche un po' questo effetto? Io non ho questa forma mentale, cioè io non vedo nulla di male nel fatto che se uno ha un ruolo che è pubblico, che ha un certo tipo di responsabilità e gestisce una città, questa città detiene un bene e questa persona possa usare questo bene, se lo fa in modo responsabile e, ripeto, in modo trasparente. Al tempo stesso, avendo noi 320 biglietti, metà senza... non per mancanza di coraggio ma per scelta abbiamo dati nominalmente a persone che secondo noi per il ruolo che ricoprono hanno questa possibilità, l'altra metà identica viene data invece alla città con un meccanismo trasparente di attribuzione chiara. Io credo che questa sia una scelta ponderata e corretta, non e anche posso dire una cosa, è molto facile in questo momento in cui c'è la lotta alla casta e la politica è tutta sbagliata, allora azzerare una serie di cose che invece fanno parte, secondo me, sono normali, sono, non, non, e sono piccole piccole, poi in realtà adesso tutto questo clamore... Sì, sono sicuramente piccole, però non sono normali, mi scusi, perché... E se fate sì. La luce del sole, sono perché se uno lavora per il Comune di Milano e il Comune di Milano ha uno stadio, può accedere allo stadio. Ma può accedere a vedere la partita, mi scusi, ci sono posti finiti che hanno un costo, e quanti sono i dipendenti del Comune di Milano? Sono 15.000. Allora riserviamo 15.000 posti per i dipendenti del Comune di Milano, perché solo i dirigenti, gli assessori? Lei poi mi dirà, sì, ma abbiamo le sottocategorie. Però se andiamo in proporzione, i consiglieri hanno tutti l'accesso, mentre i dipendenti avranno, ci sono 4 vigili urbani, 4 vigili del fuoco, e quindi i politici, i consiglieri, gli assessori hanno un privilegio che gli altri non hanno, è questo. Poi lei può dire tutto quello che vuole, però di fatto è questo quello che rimane alla fine di tutto questo. Comunque non pensavo di convincerla e non credo di avere convinto io lei, in fondo è bello anche così. Oggi ci stiamo confrontando, tra l'altro vedo che è un tema molto più caldo di quello che pensavamo. Ripeto, a me muove soprattutto il fatto che di questi 320 biglietti, di cui di solito più della metà o veramente tre quarti rimangono dei cassetti persi, a me interessa che lo stadio sia pieno di gente e che lo stadio sia frequentato da persone, famiglie, anziani, bambini, che lo riportino verso una fruizione delle partite stesse più allegra, più tranquilla, più civile. Quindi io vedo forte anche questa componente qua, che ovviamente adesso passa in secondo piano rispetto alla cassa e ai privilegi, ma in realtà questo è il vero sforzo che stiamo facendo, cioè un bene deve essere valorizzato, questo è importante secondo me. Va bene, io intanto la ringrazio per essere venuta, come ho detto anche ieri, a metterci la faccia. La voce in questo caso, sì, metaforicamente. Ripeto, restiamo su punti di vista diversi, ma non è un problema, in fondo è bello anche così. Grazie Chiara Bisconti, grazie assessore allo sport del Comune di Milano, grazie per essere stata con noi. Grazie. 18:28, siamo quasi alla borsa, io direi che non so se facciamo in tempo a sentire già un ascoltatore, iniziamo così ci scaldiamo un po' e sentiamo Alberto che chiama dalla provincia di Piacenza. Buonasera. Prego. Ho ascoltato ieri l'altro la vostra trasmissione incentrata, mi pare, quasi esclusivamente sul fisco, sull'evasione fiscale. E ho sentito interventi di ascoltatori che parlavano di scontrino, di anche esperti, una commercialista che dicevano che sarebbe bene instaurare un sistema di coincidenza di interessi in maniera che uno chieda lo scontrino perché lo può scaricare, eccetera. Ma non ho mai sentito nella vostra trasmissione e in altre occasioni che hanno trattato questo argomento nessuno che parlasse di educazione fin dalla scuola elementare, forse anche l'asilo, educazione a pagare le tasse. Cioè la società è un po' assimilabile per certi versi al corpo umano, dove le patologie quando sono conclamate si curano con le terapie, ma c'è la prevenzione, la profilassi, perché per evitare che avvenga, che si instauri la malattia, la patologia. Cioè, secondo me bisognerebbe introdurre nell'educazione civica parlare anche del dovere di pagare le tasse, questi doveri fiscali. Potrebbe essere una materia di insegnamento all'interno, che so, dell'educazione civica, non so se si fa ancora a scuola. No, non si fa. Io ho due nipotini, 14 e 12 anni, non hanno mai sentito parlare del dovere pagare le tasse. Sarebbe così semplice dire, guardate, la strada che state percorrendo è fatta con i soldi dello Stato, con il contributo di ogni cittadino, perché vanno pagate le tasse, le centrali elettriche, tutto. Niente, non si fa assolutamente niente. È per questo che poi gli italiani, secondo me, rispettano le leggi, le regole e le normative solo per paura della sanzione. Quando sanno di farla franca, se ne fregano. Va bene. Basta vedere la circolazione stradale, quando c'è lo sciopero dei vigili, tutti fanno il cavolo degli accidenti che vogliono. Cioè manca l'educazione al rispetto delle leggi e al rigore fiscale. Cioè investire ciascuno nel proprio ambito della responsabilità di contribuire alle spese. Nessuno parla di questo, dell'educazione. Grazie Alberto, lei l'ha fatto e va bene, noi accettiamo il suo contributo. In fondo, alla fine, è sempre colpa della scuola, viene sempre fuori la scuola. Però devo dire che al di là della battuta, la sua non è niente affatto una sciocchezza. 800 24 00 24, borsa. La Zanzara. 18:34 minuti, ben ritrovati in diretta, cari ascoltatori. Allora riapriamo la sessione con i vostri interventi. C'è Daniele che chiama da Rovigo all'800 24 00 24. Buonasera Daniele. Buonasera a lei. Prego. Io ho chiamato già, sono già due giorni che chiamo, quindi prima di sentire le chicche di oggi di Formigoni, ho chiamato perché la settimana scorsa ero a casa un giorno e a pranzo ho visto che l'intervento di Monti al meeting di CL. Poi ho sentito che tanti altri esponenti di rilievo della nostra politica vanno a intervenire e mi sono chiesto come mai. Io sono un piccolo imprenditore che lavora con l'estero. La sera stessa degli amici di varie estrazioni sociali e viene fuori questo discorso e tutti quanti ci siamo chiesti ma come mai tutti i nostri diciamo persone più importanti politiche devono andare a presenziare questo meeting. Poi per curiosità adesso mentre aspettavo sono andato sul sito del meeting di Rimini. Pronto? Sì sì, la sentiamo, stiamo seguendo il filo del suo ragionamento. E dopo mentre la stavo aspettando andando sul sito leggo che c'è come diciamo inserzionisti al sito Intesa Finmeccanica Nestlé. Ma cioè io sono ingenuo forse, ma come mai ha preso così tanta importanza cos'è un'associazione, un gruppo di pensiero? Non riesco a capacitarmi, anzi quasi quasi vorrei capire se posso andare anch'io, se io partecipo a questi, magari trovo qualche strada migliore nel mio lavoro, ottengo dei finanziamenti, degli aiuti particolari che per fortuna non ne ho bisogno. Così sono un po'... E poi sentire che il presidente della regione più importante d'Italia dice queste tre cose che ha detto oggi, no, io spero solo che all'estero non ci sentano, non sentono. Vabbè, la prima, quella sulla vecchietta, è un raccontino, è carino, è una cosa da campagna elettorale, sì, e sì, ci può stare. Sì, sì. Quella sul Papa è un particolare intimo del suo incontro col Papa, e ripeto, se era una balla... Ma queste cose non si dicono, secondo me. Non si dovrebbero dire. E la terza su Don Giussani, forse era una battuta, però... non lo so... Era un po' forte. Noi ci abbiamo scherzato e vi chiedevamo quale delle tre era la balla, cioè riconosci tra le tre. Sicuramente quella del Papa per me è la numero uno. È la balla. Benissimo, grazie Daniele. 800 24 0024. Sicuramente i politici vanno al meeting perché è una platea che può portare voti e quindi vanno un po' come ha detto Famiglia Cristiana, forse usando dei toni così, però insomma... magari dei toni di critica che sapevano d'attacco, però è la verità, cioè il meeting è una lobby, è anche una lobby economica il meeting, Comunione Liberazione, questo è evidente, lo sanno tutti, ma così come lo sono anche altri enti, istituzioni paracultural e quello che volete italiane, metteteci dentro i sindacati, metteteci dentro... anche la Confindustria, visto che questa è la radio di Confindustria, a queste parate i politici vanno per fare dei discorsi e magari portare a casa qualche consenso in più. Questo è un gioco acclamato, conclamato, e forse non c'è neanche nulla di strano, di male anzi, soprattutto. Franco da Prato, buonasera. Buonasera. Eccoci. Prego. La radio, sì. Ecco, già fatto. Oh, senta, io ho sentito il presidente della regione Lombardia e questo mi conferma ancora di più la mia volontà di non andare a votare e di dare una preferenza a qualsiasi partito, sia a destra che a sinistra. Però lei vota in Toscana, non vota per Formigoni in Lombardia. No, ma è uno dei prototipi dei nostri politici, insomma una figura abbastanza importante. E volevo anche però spezzare una lancia in favore del signor Berlusconi, però ecco, sì. Questo lo vorrei fare. Per esempio, mi è dispiaciuto molto che lui si sia dimesso quando mancava solo pochi mesi al raggiungimento dei 3 anni del suo governo, in quanto lui aveva promesso che in 3 anni avrebbe vinto il cancro. In televisione, in diretta, l'ho ascoltato io con le mie orecchie e visto con i miei occhi. Un'altra cosa importantissima, un consiglio che lui ci aveva dato, di ipotecare le nostre case in modo che noi avremmo con quei soldi rimesso un po' l'economia abbastanza bene, in movimento, e questo era un altro consiglio. Poi per fare una battuta, tanto che la signora Santanchè l'ha detto lei in televisione, perciò mi sento autorizzato a dirlo anch'io. Quando era contro il signor Berlusconi, lei diceva, è inutile che me la chieda, tanto non gliela do. Adesso che sono diversi anni che è insieme, che dice lei, gliel'avrà data oppure no? Lei è molto esplicito, non so se la Santanchè si è espressa proprio così. Comunque, Vabbè, Franco, che vuoi che le dica? 800 24 00 24. Volevo dire una cosa sulla sua prima parte del suo intervento, però con l'ultima, diciamo che è stata una pennellata tale che ha cancellato tutto il resto. Enrico da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, buonasera. Se può abbassare la radio e ci ascolta al telefono, così la sentiamo forte e chiaro e senza ritorno. Soprattutto Enrico, prego. E allora, per quanto riguarda il discorso dei Formigoni? Pronto? Sì, sì, e per quanto riguarda Formigoni, che cosa voleva dire? Voglio dire questo, un personaggio, non lui, ma uno qualsiasi, non può offendere l'intelligenza degli italiani, perché le balle le riusciamo a capirle tutte, ma non a quel livello. O un Papa prega per tutti, un Papa non prega per lui soltanto, e i santi che sono dall'altro lato, i santi non vengono a fastidiare i comuni mortali. E tutto là, quindi io sono certamente convinto che lui ha detto tre balle più grosse della sua testa, e mi sento offeso in questo contesto, perché non riusciamo a capire tutto quello che lui vuole dire. Vuole dire per giustificare tutti i suoi atti a livello infantile, perché io penso che lui ha detto delle cose che rasentano l'infantilismo. Vabbè, si è spiegato, Enrico. Tra l'altro c'ha un accento siciliano, lei è a Reggio Calabria, ma non so se è l'accento reggino. No, divento siciliano quando mi arrabbio. Ah, perché viene meglio, è più espressivo. Enrico. Di più i concetti. E questo è il mio dire, il mio pensare. E tenga conto che io Radio 24 la sto ascoltando da 30 anni, non da ora. Radio 24, ancora prima, ma lei come Formigoni, fa i miracoli. Radio 24 c'è da 10 anni, da 12, e quindi non può ascoltarla da 30 anni. Comunque, lei ancora prima che eravamo... Con Emanuela Falcetti, ve la ricordate Emanuela Falcetti? Grazie Enrico, grazie, buona serata. Salutiamo intanto, ci ha raggiunto il prossimo ospite, gradito Roberto Dalimonte, che è professore di sistema politico italiano alla LUISS, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Col quale vogliamo ragionare su questa diciamo notizia, che ancora notizia non è, però sono giorni che si dice, veramente sono settimane che si parla di riforma della legge elettorale. Adesso è qualche giorno che stanno emergendo i contorni di un possibile accordo tra i principali partiti, che adesso sostengono il governo Monti, e che PD, PDL, UDC, che stanno lavorando a una riforma della legge elettorale che secondo tutti va cambiata per una serie di motivi. Adesso sembra che si stia stringendo, proprio oggi ci sono delle dichiarazioni, per esempio Enrico Letta del PD dice l'accordo c'è, va solo ratificato poi in Parlamento. Così, diciamo nettamente, finora non si era ancora espresso nessuno. Però, professore, noi sappiamo che questa è una materia ballerina così come altre, e quindi prendiamo con le pinze. Restando a quello che si sa nelle ultime ore di questa riforma, le vorrei chiedere di spiegarcela un pochettino e poi magari giudicare punto su punto rispetto a alcuni criteri, che adesso vedremo se è una buona legge secondo lei oppure no. Prego, professore. Vediamo innanzitutto quelli che sembrano gli aspetti tecnici della legge, che poi non sono solo tecnici, perché quando si parla di legge elettorale gli aspetti tecnici sono anche aspetti politici. Il primo punto importante è che viene cambiato il premio di maggioranza rispetto al sistema attuale. Nel sistema attuale c'è un premio di maggioranza che assicura alla Camera, quantomeno, la maggioranza assoluta dei seggi, per la precisione il 54% dei seggi, al partito o alla coalizione che arrivano primi, cioè che hanno più voti degli altri. Invece il nuovo, questo è il premio attuale, il nuovo premio invece è un premio che non garantisce più la maggioranza, ma dà al partito e sembra non più alla coalizione un vantaggio in termini di seggi, un vantaggio che pare sia tra il 10 e il 15%. Quindi mentre l'attuale premio, quello della legge in vigore, ripeto, garantisce alla Camera sempre una maggioranza al partito o alla coalizione che arrivano primi, il nuovo premio non garantisce più la maggioranza, ma dà a chi arriva primo un premio, un vantaggio in seggi tra il 10-15%. Professore, vogliamo già fare un commento su, per quanto riguarda per esempio la governabilità, visto quello che lei ci sta dicendo, se lei si sente di sbilanciarsi per dirci se secondo lei si va verso una legge migliore o peggiore, visto che insomma ci permetterà la scarsa fiducia adesso nelle manovre che stanno facendo i partiti. Partiamo con questa preclusione, però come si dice in Toscana è meglio aver paura che toccarne, poi vedremo. Vuol fare già un commento su questo? Prima elenchiamo tutto e poi facciamo punto su punto. Possiamo fare anche un commento su questo, però prima di parlare di migliore o peggiore chiariamo quelli che sono i fatti, perché poi sa, la valutazione migliore o peggiore appartiene anche ai giudizi personali, ai punti di vista, alle proprie concezioni della democrazia o più semplicemente della governabilità. Vediamo invece però i fatti. I fatti sono che con questo nuovo sistema elettorale, soprattutto se viene confermata l'anticipazione che il premio va al partito e non più anche alla coalizione, e questo è un punto importante, tra l'accordo che era in realtà già stato raggiunto prima delle ferie estive e le anticipazioni di ieri e dell'altro ieri, comprese quelle di Letta, la differenza è che prima delle ferie estive il premio sembrava sarebbe stato dato anche alla coalizione, mentre adesso invece sembra che si siano messi d'accordo sul fatto che il premio viene dato solo al primo partito. Tra l'altro, si è detto per inciso, questa è la soluzione greca. Cioè, ops, con questa ci dobbiamo preoccupare. Questo adesso io lo dico così. Questo è il sistema elettorale greco. Ma torniamo indietro. Quindi, il fatto qual è? Il fatto è che a questo punto i partiti tutti avranno le mani libere per decidere le coalizioni dopo il voto. Dato che, visto il quadro dei rapporti di forza, oggi in Italia non c'è un partito che possa arrivare al 30% dei voti, quindi anche con il premio e anche se il premio fosse si resta fissato, sotto il 50, esatto. E questo, mi scusi se mi permetto, mi infilo, sì. E questo però, tornando a migliore o peggiore, non è una garanzia, diciamo, di facilità di governabilità, perché se diamo per scontato che un sistema elettorale, oltre a rappresentare giustamente le preferenze politiche degli italiani, debba poi però consentire, soprattutto, e questo è stato il male dell'Italia non averlo fatto, governi che abbiano la maggioranza, allora questo mi sembra già un handicap. Facciamo una pausa per il traffico e poi vediamo se il professor Dalimonte su questo, ma mi sembra, è d'accordo. E poi il resto della legge, perché c'è anche la questione dei collegi e delle preferenze, perché si torna o non si torna a scegliere chi si manda in Parlamento? La Zanzara. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, cari ascoltatori, tra pochissimo. Adesso proseguiamo questa mini lezione di legge elettorale alla luce dei fatti che sembra si stiano, diciamo, mettendo in campo, cioè di un accordo sulla nuova legge elettorale, col professor Dalimonte, che ci stava dicendo questo premio del 15% al primo partito che dovrebbe esserci. Dato che in Italia non ci sono partiti sopra il 30%, non garantisce di per sé, finisca lei, professore. Non garantisce appunto che la sera delle elezioni noi sappiamo quale sarà la maggioranza di governo. Ripeto, con questo sistema elettorale, soprattutto col fatto che il premio viene dato al primo partito e non alla coalizione, noi abbiamo la certezza che le maggioranze, le coalizioni si faranno dopo il voto. Questo è un cambiamento rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni. I cittadini, questo è il cambiamento fondamentale, quindi i cittadini devono valutare se questo, ciascuno dal loro punto di vista, se questo è meglio o peggio. Tra l'altro lei aggiungeva che se vogliamo fare riferimento ai modelli, questo è il modello, non è né il tedesco né lo spagnolo, è il modello greco. Ora io voglio bene ai greci, però parlare di modello greco in questo momento non porta benissimo come idea. Però questa è solo una battuta. C'è anche la questione... È un'osservazione fattuale. Sì, no, infatti ci limitiamo a dire... Vede, se con il premio assegnato anche alle coalizioni, cioè lasciando perdere l'attuale premio che garantisce la maggioranza, ma volendo inserire un premio che non garantisce la maggioranza, c'è cioè un premio del 10 o del 15, ma se il premio fosse assegnabile anche a una coalizione, questo vorrebbe dire che almeno c'è un incentivo. Spinge ad allearsi, certo. Spinge ad allearsi, che partiti affini possono avere il coraggio di presentare un programma comune agli elettori e farlo giudicare dagli elettori. Magari un bel premio, magari un bel premio, perché altrimenti si spinge ad allearsi troppa gente insieme diversa, come è successo in passato. Esatto, lì ci sarebbero altri accorgimenti per evitare questo, ma lasciamo perdere. Col premio a cui stanno lavorando, la situazione è questa che le dicevo, cioè ogni partito andrà per il conto suo, ci sarà un partito che arriva primo, incassa il premio e poi deciderà con chi allearsi. Questo è il e questo è il primo punto che abbiamo messo a punto. È un discorso fattuale, poi ognuno giudica, certo. Se questo è meglio o è peggio. Lei mi sembra di capire che non sia molto, se dovesse dare un voto da 0 a 10 in termini appunto di governabilità, usiamo questo criterio, questo sistema, come lo vota, come lo valuta? No, no, non do voti. No, preferisco non dare una pagella. Vabbè, è un gioco però, per capire. Chi mi segue e chi mi legge così sa che io sono un sostenitore maggioritario, un bipolarista. Io penso che il sistema migliore per questo paese in assoluto sarebbe il doppio turno, come in Francia, con collegi uninominali veri. Questa è la posizione, questo è il sistema che farebbe bene al paese oggi. Quindi lei capisce che l'attuale sistema è molto lontano. Siamo un po' lontani. L'altro aspetto, non vado oltre, perché tra la Francia e la Grecia, anch'io preferisco, e credo molti, la Francia sicuramente. L'altro aspetto è quello delle preferenze o dei collegi uninominali. Verso quale forma si va? La domanda che le faccio è: si torna a poter scegliere l'eletto o no? Sì, questo io penso che si possa rispondere senz'altro di sì, anche se bisogna vedere il testo, perché però da quello che abbiamo capito fino ad oggi il sistema dovrebbe essere più o meno di questo genere, che una parte dei seggi verrebbero assegnati in collegi uninominali proporzionali, che non sono i collegi che piacciono a me, che sono invece i collegi francesi o quelli della vecchia legge Mattarella, cioè i collegi uninominali maggioritari, sono collegi uninominali proporzionali. Cioè, tanto per intendersi, mi scusi se mi permetto. Poi lo spieghiamo. Sì, ecco, perché è importante. Se no, poi va spiegata. E un'altra parte di seggi verrebbero assegnati su liste, e qui le liste, vedremo se le liste sono bloccate, questa è una cosa che ancora non si è capita, se sono bloccate in tutto, se sono bloccate in parte, o sono tutte liste con voto di preferenza, quindi bisognerà vedere. In ogni caso sembra che una buona quota di seggi verrebbe assegnata con i collegi uninominali proporzionali. Cosa sono questi collegi? Allora, sono collegi che noi già utilizziamo per le elezioni provinciali, ecco perché vengono chiamati provincellum, provinciali, perché ogni partito, pigliamo una circoscrizione di 20, una circoscrizione con 20 seggi, allora la circoscrizione verrebbe divisa in 20 collegi, in ciascun collegio i partiti presentano un proprio candidato. Poi si fa la somma dei voti di tutti e 20 candidati per ciascun partito e in base ai voti ottenuti vengono assegnati x seggi con formula proporzionale. Quindi facciamo un esempio, il PD nella circoscrizione X, immaginiamo che sulla base dei voti presi dai 20 candidati del PD nei 20 collegi della circoscrizione X, il PD abbia diritto proporzionalmente a 7 seggi. Quali di questi 7, quali dei 20 candidati avrebbero i 7 seggi? I 7 candidati del PD più che votati, hanno ottenuto la percentuale più alta di voti nei 20 collegi. Questo è il meccanismo. Quindi in realtà, che non è detto che siano i più votati, tra l'altro, perché si parla di percentuale, quindi. Sì. Dunque, esattamente. In realtà il sistema, le dico, il sistema dei collegi provinciali è a questo punto meglio dal mio punto di vista, qui entriamo adesso nelle valutazioni soggettive. Che però ci interessano le sue. Sì, dal mio se no non la chiamavamo stasera, sì, prego. Certamente, dal mio punto di vista il sistema dei collegi uninominali proporzionali è meglio del voto di preferenza. Io ritengo il voto di preferenza molto negativo nella situazione italiana, quindi dovendo abbandonare la lista bloccata e non potendo inserire, perché i partiti non li vogliono, i collegi maggioritari, quelli veri. Quelli veri dove, diciamo una cosa, dove si rischia perché si viene eletto solo quello che prende più voti, quindi tutti gli altri sono esatto. fuori e ci si deve mettere veramente la faccia. Questo è quello che forse ci vorrebbe, invece questo non arriverà. Vabbè. No. E quindi però diciamo che i collegi, ripeto, visto che la lista bloccata è un male, visto che per me il voto di preferenza è un male nel contesto italiano per ragioni che poi possiamo dire, visto che i partiti non hanno interesse a fare le liste flessibili che esistono in altri paesi europei e visto che i collegi maggioritari veri non li vogliono, i collegi uninominali proporzionali sono un male minore dal mio punto di vista, però contengono delle controindicazioni, una l'ha detta lei. Sì, quella che non è detto che vengano eletti i più votati. Sì, no, per esempio, le faccio un caso. Sì. Prendiamo la Toscana, faccio il caso della Toscana. Nel collegio eventuale di Firenze Centro, io faccio il caso della Toscana che vivo a Firenze nel centro, può accadere, quasi sicuramente accadrà con questo sistema, che nel collegio di Firenze Centro il candidato del PD, che molto probabilmente risulta primo, cioè con più voti di tutti gli altri candidati, non verrà eletto. Perché? Perché ci saranno candidati del PD in altri collegi di quella circoscrizione che avranno una percentuale di voti superiore a quella del candidato del PD nel collegio di Firenze Centro. Quindi cosa avviene? Avviene che il collegio di Firenze Centro otterrà il seggio, perché poi il termine vincere con questi collegi è improprio, diciamo otterrà il seggio nel collegio di Firenze Centro non il candidato che ha avuto più voti, quello del PD, ma un altro candidato che ha avuto meno voti, perché in base ai calcoli per ciascun partito, perché i calcoli si fanno sulla base dei voti di ciascun partito, sarà il candidato del PDL, dell'UDC. Un effetto distorsivo, non abbiamo il tempo per vederli tutti gli effetti distorsivi, le vorrei chiedere invece una cosa, una sintesi finale, un miglioramento, quanto un miglioramento da Limonte rispetto al passato? Questa legge elettorale? Lei il voto non lo vuole dare, però se quella era un 5 bocciati siamo a un 6 meno? Senta, rispetto al sistema che io preferisco è certamente un allontanamento dal sistema che io preferisco. Però vede, il punto di vista, qual è il punto? Dobbiamo di chiudere vista? 10 secondi, professore, poi c'è il GR. Allora, dico solo questo. Sì. Questa riforma elettorale è funzionale. La Zanzara. 19:16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, tra poco riapriamo la sessione con i vostri interventi. Sentiamo sempre dal meeting di Rimini un passaggio, un intervento del segretario della CISL Bonanni, che fino a qualche tempo fa era stato molto critico col ministro Fornero e anche un po' con l'operazione del governo Monti, adesso però Monti diventa l'unico che è in grado, dice, di governare, che ha la credibilità per governare l'Italia. Nei prossimi giorni convocheranno banche, le banche, che non hanno dato un soldo né a imprese né a famiglie. Comprano a poco con i soldi dei contribuenti dalla Banca Centrale e rivendono a molto agli stessi stati che pagano comprando i titoli di Stato. Così è in grado anche mio zio di fare il banchiere. Sentiamo il passaggio di Bonanni a proposito di Monti. Monti ricorra a queste energie se vuol governare l'Italia, giacché è l'unico uomo oggi che ha credibilità per oggi e domani a governare l'Italia. Fa bene a collegarsi con i corpi intermedi, con la società organizzata. È l'unico modo per farcela e far diventare le sue parole ottimiste in parole fondate davvero sulla roccia e non solo sul suo desiderio. Grazie. un appoggio a Monti da parte di Bonanni per certi aspetti inatteso, almeno per me. E Bonanni, che viene dato da alcuni in procinto di entrare nella famosa Cosa Bianca, che mai ci sarà, ma di cui sempre si parla con Passera, con altri ministri dell'area di centro cattolici. Sentiamo il passaggio invece di Antonio Conte, che oggi con questa conferenza stampa, dopo, insomma, per commentare la sentenza d'appello e questi 10 mesi che gli vengono inferti di pena per il reato riscontrato dalla giustizia sportiva, Conte, piuttosto teso, stravolto, che dice anche: sono antipatico perché vinco. Questo magari lo sentiremo dopo. Sentiamo il passaggio in cui se la prende anche col patteggiamento che ha fatto i suoi avvocati. Forse non era il caso di andare in conferenza stampa a dire questo aspetto, che è un aspetto che riguarda lui e i suoi avvocati, le decisioni che hanno preso congiuntamente. Non interessa quando si parla di patteggiamento. Il patteggiamento è un ricatto. Il patteggiamento è un ricatto che viene fatto purtroppo dai nostri stessi avvocati. Il patteggiamento è un ricatto bello e buono da questa giustizia. È una vergogna. È una vergogna. Sentiamo anche: sono antipatico perché vinco. Devo dire che oggi questa conferenza stampa ha fatto perdere sicuramente dei punti a Conte, a chi già non l'aveva particolarmente simpatico, perché non è stato proprio elegante, non è stato bello vedere questo attacco alla giustizia sportiva. Poi si può dire tutto di quel processo, il contrario di tutto, però mi sembra che siamo andati un po' fuori dalle righe. Sentiamo. In 5 anni ho vinto 3 scudetti, uno scudetto, ho fatto 2 promozioni. Sono antipatico perché vinco? Non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio al massimo, chiedendo il massimo prima a me e poi ai calciatori e alla società. Do fastidio, non è un problema mio. 800 24 00 24. Francamente, uno così è antipatico perché ha un modo antipatico e non c'è niente da fare. TG3. A sorpresa negli Stati Uniti, in aumento le richieste di sussidi di disoccupazione, subito le borse vanno giù e torna a salire lo spread. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble: inutile concedere altro tempo alla Grecia per le riforme, vertice Hollande-Merkel. Per la Fornero: sono troppo alte le tasse sugli stipendi, annuncia misure per i giovani e per la crescita. Bonanni: spero che sia un impegno fondato. Domani al Consiglio dei Ministri le idee per la crescita, niente IVA per le infrastrutture, green economy, agenda digitale. Monti: dobbiamo fare presto. Letta: accordo sulla legge elettorale a portata di mano, la prossima settimana gli incontri decisivi, si torna a parlare di voto a novembre. Duro sfogo dell'allenatore della Juve Conte dopo la conferma della squalifica di 10 mesi. Su di me accuse infamanti da giudici tifosi. Da oggi, secondo gli scienziati inglesi, la Terra ha esaurito le risorse che il pianeta produce in un anno. Pochi decenni fa questa soglia scattava a dicembre. Poi ci sono gli ascoltatori al 349-238-6666 che dicono che bisogna avere rispetto, compassione per Conte, che ha subito una condanna ingiusta e che quindi è quello il motivo per cui è stravolto e bisogna capirlo. Però forse si può anche evitare di fare una conferenza stampa così, con questi toni, che ripeto, non credo che gli abbiano portato molti nuovi consensi a Conte, e questo mi sembra indubitabile. 824-0024, abbiamo recuperato intanto il professor Dalimonte, che purtroppo avevamo dovuto sfumare quasi arrivati al giornale radio, e queste sono le regole della messa in onda. Ben ritrovato, non si sarà offeso, spero. No, assolutamente no. era un obbligo, col quale stavamo chiudendo, commentando questa ipotesi di legge elettorale. Notizia di oggi, sembra che ormai che ci siamo stando. Mille volte ci sono stati annunci su questo, quindi staremo a vedere, però stando a quello che si sa, abbiamo fatto un'analisi, e però le dobbiamo un commento finale su questa vicenda, professore. Sì, il commento finale è che questa è una legge elettorale, se si farà, che è funzionale al quadro politico attuale. Per questo vede, la valutazione dipende da quello che uno pensa del quadro politico attuale, cioè nel senso che se uno ritiene che la grande coalizione, cioè la prosecuzione dell'attuale strana maggioranza, sia un fatto positivo per il Paese, forse questa legge elettorale è quella che potrebbe portare a questo esito. Questo è un po' il succo. Quindi diciamo una legge che lascia aperta la possibilità che si riproducano coalizioni anomale, vogliamo definirle così, insomma. Anche coalizioni, insomma, grandi coalizioni. Sì. Questo è il punto. Va bene. Ed è per questo che molti di coloro, che, non tutti, ma molti di quelli che si accingono ad approvarla, sono soddisfatti. Se posso chiederlo, anche se so che sugli aspetti politici lei è un po' più allergico, però dovesse azzardare una riproposizione di coalizione a due o a tre partiti, perché farebbe la differenza, no? Cioè, qua si parla di una coalizione fino ad ora molto larga per una situazione di grande emergenza, che non si sa quanto possa andare avanti. Coalizioni invece in futuro larghe, ma un po' meno larghe di questa? Sì, ma immagini, facciamo dei conti, immagini un PD al 28%, che è già un bel risultato, non è detto che il PD ci arrivi, che sia il maggior partito con il 28% di voti. Immaginiamo che il premio sia di 12 punti, no? Perché si devono mettere d'accordo, ma immaginiamo che sia un punto intermedio fra 10, 15 e 12. Quindi il PD va a 40 seggi, per cento di seggi. Poi che fa? Il PD, primo partito, con 40% di seggi. Se l'UDC o il Polo di Centro staranno sopra il 10%, ecco, se sarà un, ecco, perché anche lì ci sono delle incertezze, lei capisce cosa succede lì al 100, ma immaginiamo che ci sia un Polo di Centro che arriva al 12%. Bene, allora vorranno fare una coalizione PD con il suo 40% di seggi grazie al premio, più il Polo di Centro o l'UDC, se non ci sarà un Polo di Centro, col 12%, se ci arrivano, e arrivano il 52%. Poi magari troveranno difficile riuscire a governare con 52% dei seggi in una situazione così difficile, ed ecco che scatta il meccanismo di un'apertura anche al maggior partito di opposizione, che presumibilmente potrebbe essere il PDL, e così torniamo alla maggioranza attuale, capisci? Quindi sarà questa la legge elettorale che lascia aperta la possibilità di riproporre come esito l'attuale maggioranza. Naturalmente dipenderà poi dai numeri. Io ho fatto così, ho buttato lì dei numeri, però non sono numeri buttati lì a caso. Va bene, mi sembra che su questo ci possiamo fermare. Uno scenario molto chiaro, quello che lei ha disegnato, sulla base di quello che sappiamo oggi. La ringraziamo per questo, buona serata, professor Dalimonte. Grazie a voi. E riprendiamo la sessione lasciata aperta con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Guido da Pescara, buonasera. Buonasera. Sempre molto interessante il professor Dalimonte, complimenti. Bene. Volevo dire, intervenire sul problema di Formigoni, su quello che ha detto, mi viene da ridere perché lo trovo un po' offensivo nei riguardi dell'intelligenza degli italiani. A prescindere che i politici di balle forse ne dicono e non dovrebbero, ma insomma di questa puerilità sono balle proprio senza nessuno scopo se non quello di piacere alla platea di CL, di cui lui è membro, se non erro, vero? E poi volevo, quindi dico sono tutte e tre delle balle, volevo parlare a proposito dello stadio dei nostri politici di Pescara che vogliono andare allo stadio Grande. E anche a Milano, però, anche a Milano. Stasera abbiamo parlato dei 150 biglietti per i consiglieri e gli assessori dirigenti del Comune di Milano. Sì. Certo. Qui c'era una storia vecchia che le società sportive prima di queste probabilmente si erano accumulati dei debiti nei riguardi dell'amministrazione comunale non pagando le tariffe, le quote per l'affitto dello stadio, e quindi loro li rabbonivano dando una caterva di biglietti e abbonamenti che poi distribuivano agli amici degli amici. Io sono un giornalista, quindi queste cose le conosco, insomma, sono sulla piazza da tanti anni. E quest'anno finalmente questa società ha deciso di tracciare una linea fine, no? Di dire che il politico non deve pagare, che ne so, il medico sì, insomma, non è più importante di un medico in politico. E allora oltretutto guadagnano, hanno soldi e possono pagarsi il biglietto. Tutto qua. Dico che ha fatto bene lo stadio e la società sportiva Pescara Calcio, del fine Pescara. Grazie Guido, grazie, buona serata. Sentiamo adesso Gianfranco che chiama da Milano. Buonasera. Ah, grazie della chiamata, mi sentite? Forte e chiaro Gianfranco, prego. Bene, dunque soltanto la questione dell'episodio in parrocchia di Formigoni, il quale è assolutamente vero, perché io ero quella persona che stava di fronte a lui. Ah, e lei è quello con cui ha parlato Formigoni? No, io ero solo il marito, perché poi... Lei è il marito della signora che si è girata verso Formigoni, fantastico. Esattamente. E quindi noi l'abbiamo riconosciuto e ci siamo detti, hai visto, è proprio c'è Formigoni. Allora poi mia moglie gli ha rivolto la frase di incoraggiamento, la quale penso che sia del tutto normale, perché... Io ho detto che era un racconto, era verosimile, era raccontato molto bene e che per questo poteva anche essere del tutto inventato, ma sai, i politici lo fanno. Poi abbiamo lanciato scherzando il concorso qual è la balla tra questo aneddoto, quello del Papa e quello di Don Giussani. Quindi, infatti vi ringrazio molto. Il fatto è che voglio dire questo, che tutto sommato un politico che si reca in parrocchia in maglietta e poi va via con la sua macchina pilotando lui, tutto sommato fa io simpatia. Vorrei che ce ne fossero parecchi, perché ecco tutto qua, quindi faccio parte di coloro che amano e odiano la zanzara, cioè la amano quando dite pare opinioni uguali alle mie e la odio quando le opinioni sono diverse. Questo penso questo che sbaglia per tutti, siete veramente democratici, quindi è un piacere avervi ascoltato, andare avanti a ascoltarvi e vi ringrazio davvero tanto. Grazie Gianfranco. Comunque è interessante questa cosa che ci sta raccontando, non so se ci vuol dare qualche altro dettaglio. La sua moglie ha detto, perché avrebbe detto a Formigoni che anche i non elettori sono vicini a lui, persone che non l'hanno votato. Sua moglie tra questi non l'ha votato, però lo apprezza. Non l'abbiamo votato, però essendo cattolici e vedendolo in parrocchia più di una volta... È un personaggio per il quale voterei, ecco, per dire. Perché voi frequentate la stessa parrocchia, è questo? Esattamente, e lui viene lì spesso, e viene lì in incognito, ed è secondo me un esempio di un politico un po' all'americana che conosce i suoi elettori eventuali, ecco. Trovo che lui sia libero di difendersi nella maniera in cui vuole e mi dispiace quel signore che chiamava da Reggio che si sia così arrabbiato. Lui il suo discorso lo fa lui e poi l'efficacia del discorso se la vedrà lui, perché in certi casi anche a me è parso un po' eccessivo, però forse bisognava sentirlo tutto, ma quello è il problema. Noi sicuramente facciamo delle estrapolazioni e fa un po' parte del gioco. Grazie Gianfranco, bell'intervento, buona serata. 824 0024, dunque dall'interno della parrocchia dove Formigoni ha incontrato questa coppia, la signora si è rivolta a lui e lo ha incoraggiato, e questo diciamo è un episodio vero, accaduto, e quindi diciamo sul nostro concorso dei tre episodi questo va tolto, no? Perché vi chiedevamo qual era la balla tra l'episodio della vecchietta alla messa, la signora, l'anziana, il Papa che prega per lui e Formigoni che percepisce Don Giussani che si è dato da fare per lui dal paradiso. Borsa. La zanzara. 19.33, riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Rolando che ci chiama dalla provincia di Salerno. Buonasera. Buonasera. Volevo dire che mi dispiace per tutte le cose serie di cui state parlando oggi, però io vorrei dirvi soltanto che da juventino io sono dispiaciuto di quello che sta dicendo Antonio Conte, perché l'anno scorso ci ha detto che sul campo dovevamo far vedere quanto valesse la nostra squadra, e l'ha dimostrato, e sul campo, in questo caso in tribunale, avrebbe dovuto dimostrare che lui non era colpevole. Se i giudici, e io ritengo che i giudici debbano essere salvaguardati, hanno deciso che era credibile Carobbio o chi per lui, mi dispiace per lui, allora deve essere colpevole. E aggiungo che a questo punto, come accettiamo le sconfitte, accettiamo anche il fatto che qualcuno possa dire che in realtà noi siamo colpevoli. Finisco per dire che questa vicenda, purtroppo per noi juventini, o almeno purtroppo per me, è purtroppo una sconfitta di Agnelli, perché voleva per forza mettersi fuori della giustizia. E mi dispiace proprio, poiché la Juventus è una squadra, è una società quotata in borsa. Se la Juve quest'anno non dovesse vincere lo scudetto per colpa dell'assenza di Conte in panchina, io penso che forse qualche investitore, io purtroppo non ho azioni della Juventus in portafoglio, però penso che qualche azionista potrebbe anche chiedere le dimissioni di Agnelli in quanto amministratore delegato della società, che costringe un suo dipendente ad accettare un patteggiamento e tutto quanto quello che ne consegue successivamente. ripeto, dopo le Olimpiadi, dopo il fatto che abbiamo dovuto accettare che ci sono stati verdetti dei giudici alle Olimpiadi che ci hanno visto una volta vincitori, altre volte perdenti, sentire parlare male così tanto dei giudici, sinceramente, da juventino, mi è dispiaciuto tantissimo. Grazie Rolando, grazie. 824 0024, mi fa piacere che queste affermazioni vengano da un tifoso juventino, vuol dire che si può andare anche oltre il tifo e ragionare sulle cose un pochino freddamente. Lucia da Vicenza, buonasera. Buonasera. Prego. Ho sentito un intervento stamattina alla radio, penso Radio 24, di un sindaco, mi pare che fosse della Lega Nord, che ha giustificato, io la chiamo la mattanza che hanno fatto al marocchino, perché in qualche modo ha detto si devono difendere. Sì. Perché non fanno la stessa cosa col politico Bossi, che ha speso, ha rubato tanto in casa degli italiani come tutti gli altri parlamentari? Perché non fanno la stessa cosa? Vadano e facciano la stessa cosa, testano bene come hanno fatto con, non voglio giustificare la persona se ha rubato, ma allora intervengono in maniera come da giustizialisti per un povero Cristo, e quando ci sono i nostri politici con camicia bianca in Parlamento che hanno tutto spesato e rubano, allora nessuno dice niente. Fate la stessa cosa, no? Lei dice furto per furto, se è stato, come dice la giustizia, furto anche quello di Bossi. Esatto, sì. Perché non se la prende con qualche parlamentare? Sì. Facciano così e io gli do pienamente ragione. È troppo facile dire in qualche modo ci dobbiamo difendere. Non è così che si fa. Questa è veramente una cosa che schifa veramente, perché ormai con le ruberie che ci sono non so cosa dovremmo fare. Grazie Lucia, è che ogni volta che ci sono episodi così e c'è qualche politico che soffia un po' sul fuoco, mi viene da dire, di questa insicurezza, che è una cosa che poi tocca le persone. E io fra l'altro non conosco benissimo la vicenda che è accaduta in Liguria da questo punto di vista, però, e non ho neanche sentito l'intervento questa mattina del sindaco leghista. Comunque lascio agli ascoltatori commentare quello che ha detto Lucia. 824 0024. Oliviero da Milano, buonasera. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Io veramente mi ero iscritto 40 minuti fa per denigrare l'atteggiamento di Conte. Sì. Volevo dire che non c'è limite all'indecenza e fare un certo tipo di discorso su questo fatto del calcio truccato. Ma dopo aver sentito gli interventi, dei vostri interventi, se lei me lo consente, volevo un attimo spostare l'argomento su un altro tipo di argomento. Su cosa? Che è più importante. E cioè, avevo sentito un vostro ascoltatore 4-5 telefonate fa, il quale diceva io non andrò a votare perché è stufo di questa situazione. Ecco, io credo da tanto tempo che l'unica arma che noi italiani abbiamo in mano, poiché la marcia su Roma, sì, non possiamo farla, è quella proprio del voto. E secondo me mai come ora il voto diventa un atto di coraggio, cioè di aver fiducia di persone nuove. È sotto gli occhi di tutti, penso, quanto la politica vecchia sia fondata sul consenso. Vuol dire che io faccio un qualche cosa se ottengo consenso. Ecco, questo concetto lo si deve completamente estirpare. Monti è la prima volta che abbiamo un politico che fa nel bene o nel male gli interessi dell'Italia, cioè lavora per l'Italia. Abbiamo una buona reputazione in Europa e sta lavorando per l'Italia. Allora io credo che per andare nelle prossime elezioni gli italiani debbano fare un atto di coraggio, cioè smettere di votare il solito partito, le solite persone che hanno sempre fatto, e riflettono veramente su un movimento, un gruppo di persone o qualcosa di nuovo, perché solo questo secondo me potrà dare credibilità e togliere tutte quelle ingiustizie. È un'utopia forse la mia, ma piano piano ci dovremmo arrivare, che ci sono oggi in Italia. Di ingiustizie se ne sono tantissime, l'ultima, sì, signora ne elencava sui politici, eccetera. Però la politica italiana, il male della politica italiana è il consenso. Un politico fa qualcosa per sé e per ottenere consenso e non per il bene dell'Italia. E aggiungiamo a questo anche la corruzione. Io credo, se mi lascia solo un ultimo concetto, che la gente c'è tanta gente in Italia che ha buon senso, c'è tanti manager italiani che se ne stanno in pensione e che potrebbero sicuramente avere delle idee molto più vicine all'interesse degli italiani che non i soliti politicanti. E allora andare a votare vuol dire non votare più quelle persone, mandarle a casa, fare in modo che passino sotto il 4% Grazie Oliviero, grazie. Sì, grazie. Mi pare chiaro quello che lei voleva dire. Nicolò da Milano, Nicolò? Sì, Nicolò. Buonasera. Buonasera, prego. Allora, grazie della chiamata, complimenti per la trasmissione. Io una breve considerazione, avevo sentito l'assessore, mi sembra, dello sport di Milano, sì, intervenuto sul discorso... Chiara Bisconti. Ecco, esatto, sulla donazione ai politici, diciamo, del Comune di Milano, dei biglietti per San Siro, perché rappresentavano un attimo, lavorando in comune, rappresentavano il comune. Francamente la mia considerazione è abbastanza banale, cioè tutti i cittadini di Milano rappresentano il Comune di Milano e ci sono 1000 cittadini raggruppati anche in associazioni a cui potrebbero essere donati quei biglietti pur non rappresentandolo politicamente il Comune di Milano. Tutto qua, è abbastanza banale. Secondo me la considerazione è talmente semplice che ci dovrebbero arrivare anche loro, cioè la donazione agli insegnanti delle scuole del Comune di Milano, ai bambini, alle associazioni di volontariato vario, se non direttamente ai cittadini. Secondo me, se abbiamo uno stadio vuoto e siamo costretti a regalare biglietti, perché è giusto la considerazione che faceva l'assessore, bisogna riempirlo di persone per bene, francamente in 1 milione di abitanti persone per bene a cui regalare il biglietto ce ne sono. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Andrea che ci chiama da Bergamo, buonasera. Sì, ciao, io stavo tornando dal meeting di Rimini e quindi ho sentito la telefonata nel quale il vostro ascoltatore chiedeva perché le persone vanno al meeting, le persone potenti vanno al meeting. Sì. Francamente ho fatto un breve excursus di chi ha partecipato e mi è venuto in mente Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Tony Blair, Napolitano. Ora, queste secondo me non sono persone che hanno bisogno di venire al meeting per cercare appoggio, applausi, lobby, o sbaglio? No, io sì, ho detto che si va, ma non solo al meeting, ho detto che si va a queste manifestazioni politici, perché l'ascoltatore parlava di quello, anche a prendere voti, no? Io parlavo di politici. Se lei mi cita Giovanni Paolo II, Madre Teresa, non andavano a prendere voti, no, questo è evidente. Ma il problema qual è? Che uno pensa al meeting e pensa che sia una manifestazione politica. Non è così, il meeting è una manifestazione a 360 gradi, ci sono 9 mostre, l'ascoltatore ha detto sono andato sul sito del meeting, sì, ma guarda anche quali altre mostre ci sono 9 mostre sull'Albania, su Dostoevskij, sul Duomo di Milano, cioè limitarsi al politico che viene è proprio stupido. Vuoi sapere che cos'è il meeting? Perché ci vengono i tra virgolette potenti, vieni, è gratuito, non si paga il parcheggio, qual è il problema? Ti informi, vedi quello che succede, se poi ti chiedi perché le persone vengono, se poi non l'hai ancora capito, va bene, capita, non è un problema, ma a priori dire io non capisco, quelli sono dei lobbisti, cioè va bene tutto nella vita, però pensare che un'associazione che fattura 1 milione come la Compagnia delle Opere sia una lobby, mi sembra francamente eccessivo, dai, neanche una PMI. Va bene, grazie anche a lei, Andrea, che ci chiamava da Bergamo. Adesso affrontiamo un altro argomento che nei giorni scorsi ne abbiamo già parlato. Ci sono varie proteste in giro per l'Italia contro gli effetti della spending review per quanto riguarda le province, anche le sedi dei tribunali. Ne abbiamo sentite di proteste urlate, a volte goffe, in cui vengono fuori cose strampalate, in cui si difendono territori, recinti, a volte francamente indifendibili. Questa volta c'è una pagina sul Corriere della Sera, a proposito del tribunale di Bassano del Grappa, si chiede di non chiuderlo. Siamo in provincia di Vicenza e da quello che si legge in questa pagina di pubblicità che è stata comprata dal comitato promotore, sembra che la cosa sia un po' diversa. Cioè, si parla di investimenti recenti che sono stati fatti per realizzare la cittadella della giustizia, si dice che c'è un'alta efficienza di questo tribunale in una zona dove per esempio ci sono moltissime imprese. Allora uno si domanda, che succede? Lo domandiamo a Nereo Merlo, avvocato portavoce del Comitato per la Salvaguardia del Tribunale di Bassano del Grappa. Buonasera. Buonasera a lei. Io appunto ho fatto una distinzione perché così, guardando da fuori, sembra una protesta un po' diversa da altre che abbiamo sentito, e sappiamo che insomma, si possono fare anche degli errori quando si taglia così 31 sedi giudiziarie distaccate. Poi c'è sempre lo scetticismo del cittadino che dice, beh però se si va avanti con i distinguo non taglieremo mai niente, non risparmieremo mai niente. Mi spiega perché voi lottate, tra virgolette, però quello è quello che state facendo, per evitare la chiusura di questo tribunale. Lei è un avvocato, tra l'altro, no? Certo, io sono un avvocato del Foro di Bassano del Grappa. Mm. Beh, se mi permette, io comincerei da una notizia che tutte le agenzie di stampa stanno battendo in questo momento, giusto per uscire dal timore che la nostra sia una battaglia di campanile. E queste agenzie riportano praticamente il comunicato del senatore Berselli, che è il presidente della Commissione Giustizia del Senato, e il quale dice: condivido pienamente l'originale forma di civile protesta della provincia di Vicenza, del Comitato della Salvaguardia del Tribunale della Procura di Bassano. E via via non gliela sto a leggere, ma conclude: dalla soppressione del Tribunale di Bassano avremo infatti da un lato minore efficienza, dall'altro maggiori spese, anzi un vero clamoroso sperpero di pubblico denaro. Sì, posso ecco. Dire subito, poi la faccio proseguire, ma certo. Non su Berselli. Dico io una cosa su quello, perché è evidente che lui è il presidente della Commissione Giustizia e c'è un braccio di ferro tra il governo e il Parlamento su questo. Poi i cittadini giudicheranno, perché la Commissione Giustizia aveva dato dei criteri, il presidente Berselli è contrario alla chiusura di una serie di sedi giudiziarie, compresa quella di Bassano del Grappa, ma c'è anche, ci sono in Liguria, c'è quella di Rossano Calabro, che per esempio sta a cuore, l'abbiamo intervistato a Gasparri qualche sera fa, e quindi fin qua non c'è niente di nuovo. Cioè se Berselli difende la vostra sede è tautologico, cioè loro erano contrari, il governo però è andato giù con le forbici. Mi dica lei invece quali sono i motivi per cui voi... Beh, allora vogliamo andare immediatamente sì. sul concreto. Noi possiamo dire quali sono i dati dell'efficienza del Tribunale di Bassano del Grappa, e quindi noi a Bassano registriamo dei tempi per una definizione di una causa civile di 3 anni. Praticamente abbiamo dei rinvii da un'udienza all'altra di 3-4 mesi. Un decreto ingiuntivo viene firmato dal Presidente in un giorno. Noi una sentenza di separazione, divorzio consensuale in un mese è perfezionata. E come mai c'è questo alto livello di efficienza? Cioè un caso oppure c'è una procedura? Hanno lavorato, perché lei è semplicemente un avvocato, quindi poi la velocità della giustizia dipende sicuramente anche dagli avvocati o la lentezza. Però, in parte, in minima parte, sì. Come si spiega questa efficienza, in particolare di Bassano? È un caso o c'è qualche cosa dietro? Ma qualche cosa di particolare non penso. Penso che sia un rapporto con il territorio che bene si perfeziona anche nel Palazzo di Giustizia. Mm. Ma sì. Oltre a questa efficienza, diciamo, che... non è da dimenticare, no, che non certo. è che Bassano non abbia un carico di lavoro, perché il carico delle cause di Bassano del Grappa è superiore a quelle del Tribunale di Belluno e del Tribunale di Rovigo, che sono capoluoghi di provincia. Ecco, Bassano è l'unico tribunale nel Veneto che non è capoluogo di provincia. Cioè ci sono più cause a Bassano che a Belluno, per esempio. Esattamente. E il tempo, mi diceva, sul civile 3 anni è inferiore al tempo medio alla lunghezza. Di molto, se noi pensiamo che Bassano andrebbe accorpato a Vicenza, oggi il tempo medio di una definizione a causa civile sono 6-7 anni. Ma mi spiega cosa succederebbe? Cioè, gli uffici proprio di Bassano chiuderebbero e si trasferirebbe tutto a Vicenza? Esattamente, non solo, ma con la soppressione anche delle sedi distaccate a Vicenza ci sarebbero anche praticamente le sedi di Schio, eccetera. Pertanto ci sarebbe il collasso. Teniamo conto, sempre per non parlare di campanile, che il presidente stesso del Tribunale di Vicenza, e quindi magistrato, ha segnalato come il nuovo Tribunale di Vicenza non sarebbe in grado di ospitare anche i magistrati, i cancellieri, personale amministrativo provenienti da Bassano del Grappa. Per sì. queste motivazioni noi abbiamo inviato anche al Ministro e per conoscenza al Premier Monti e ai Presidenti delle Commissioni di Giustizia, Senato e della Camera, e quindi Berselli Buongiorno, e con una lettera separata al Comitato, al Capo dello Stato, ecco, un invito a rivedere appunto questo decreto su queste oggettive circostanze. Sì, senta, ma inoltre, lei noi come sì. comitato abbiamo raccolto, ma solo in piazza, così avvicinando la cittadinanza, 18.000 firme in 4 settimane, in piene vacanze, ecco. Quindi queste erano un po' le motivazioni che abbiamo esposto anche al Ministro. Lei è di Bassano del Grappa? Sì. Vive lì. Non è che magari non le va di fare il tragitto fino a Vicenza? Vabbè. Guardi, queste 18.000 firme sì. noi le abbiamo raccolte per un motivo. Sì. E cioè che volevamo avvicinare la cittadinanza per fare capire quali sarebbero stati gli effetti negativi che ricadevano sulla cittadinanza. E quindi parliamo di volontaria giurisdizione, parliamo di tutte quelle attività per cui il cittadino direttamente si rivolge all'ufficio sì. pubblico. Beh, questo ecco. è chiaro, avete fatto poi con questa pagina, io l'ho citata oggi, se qualcuno la vuole vedere sul Corriere, insomma, 12 ecco. milioni di euro però, di investiti, sì. Costi aggravanti per il cittadino, però... Visto che la ratio di questo provvedimento è in realtà il contrario, cioè andare a risparmiare, io le voglio chiedere, voi siete, cioè lei personalmente, per esempio, visto che si è fatto portavoce di questo comitato per difendere il Tribunale di Bassano del Grappa, lei è contrario in sé a accorpare le sedi giudiziarie in Italia, a tagliare qualcosa, si può risparmiare su questo? No, oppure no. Io cioè, sono giusto contrario. In linea di principio, ma contrario per quanto riguarda il vostro caso. No, io sono contrario a che non vengano rispettate le linee della legge delega in cui si parla di assetto territoriale degli uffici secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice di sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale. E qui arriviamo al discorso della nuova cittadella della giustizia di Bassano del Grappa. Però siccome stiamo parlando di spending review, io vorrei solo riportare un dato sulle economicità del Tribunale di Bassano del Grappa e questa non sono dati inventati, fonte Ministero della Giustizia e sì. l'Agenzia del Territorio. Il costo annuo per lo Stato del Tribunale di Bassano del Grappa sono 850.000 euro. I ricavi medi annui, quindi parliamo di contributi unificati, Marche, eccetera, sono 3 milioni di euro. Rapporto costi-ricavi per il Tribunale di Bassano del Grappa, quindi una sopravvenienza di 2.500.000 euro. È clamoroso, cioè praticamente lo Stato si dà la zappa sui piedi da solo. Ma perché secondo lei il governo, anzi i criteri utilizzati dal governo per fare questi accorpamenti, questi tagli, secondo lei sono... L'hanno fatti a caso oppure ce l'avevano con voi in particolare? Sono un po' ironico ovviamente, però no, le chiedo no. un commento su questo, perché dato quello che ci dice lei, avevano bevuto un po' troppo oppure non me lo so spiegare. Ma guardi, in piena sincerità non me lo so spiegare neanch'io, infatti lo stupore per Bassano nel momento in cui perché, scusi, finisco la, finisco la domanda così poi lei risponde. Perché il sospetto che mi viene vedendo la cartina è che siccome questo sarebbe l'unico tribunale in Veneto che chiude, mentre per esempio ce ne sono in Piemonte 2, 4, 6, 8, in Liguria un paio, in Toscana un paio, in Campania 5, per la regione Veneto, visto che insomma, il tema del campanile non è lontanissimo da quello di cui stiamo parlando, sarebbe l'unico tribunale che chiude. Forse c'è anche un no, criterio di questo tipo. Mi scusi, è sbagliato sì. il presupposto. È l'unico tribunale non capoluogo di provincia, quindi non è che ne possano chiudere altri. Sì, infatti. No, ecco, perché in altre regioni ce ne sono molti di più. Lo chiudono. Ecco. E teniamo conto che la situazione che io le ho descritto per Vicenza è analoga anche per i tribunali limitrofi di Bassano, quindi parliamo di Treviso, parliamo di Padova come tempi, ecco. Quindi sì, sarebbe per noi da un punto di vista della risposta di giustizia al cittadino veramente una morte civile. Va bene, Merlo, noi abbiamo fatto chiarezza su questo, abbiamo dato voce. Grazie, buona serata, staremo a vedere. Io ringrazio lei, buona serata. 19.55 800 24 00 24, riprendiamo con gli ascoltatori e andiamo a Roberto che ci chiama da Ferrara. Buonasera. Pronto, buonasera, grazie per avermi chiamato. Sì. Io avevo due argomenti, di cui uno è stato esplicitato da Nicolò da Milano, con cui concordo al 100%. Quello sull'assessore di Milano. Il secondo è una preoccupazione che ho, perché riferito all'argomento della legge elettorale, perché in un momento in cui si chiede da parte del popolo di poter essere maggiormente rappresentato in Parlamento, ho capito di una legge elettorale dove c'è un premio di maggioranza o un partito solo. Dove c'è la possibilità che un solo partito con una netta minoranza, arrivare intorno al 35%, abbia la maggioranza assoluta in Parlamento con parlamentari. No, guardi, lei però, che non sono, mi scusi, collegati dal popolo. Sì, mi scusi, però forse lei non ha, secondo me non ha capito bene, perché quello che ha detto Dalimonte, la simulazione che ha fatto Dalimonte era un po' diversa. Lui ha detto, partiamo dai dati di oggi, i principali partiti non vanno oltre il 25%, è proprio il contrario, con un premio di maggioranza del 15% possono arrivare al 40%, cioè avranno comunque bisogno di allearsi con un altro partito, e questo lo faranno dopo le elezioni, e questo viene giudicato negativamente da Limonte. Io nel mio piccolo mi accodo, nel senso che questo non dà una certezza prima delle elezioni di quale possono essere le alleanze, le coalizioni, e soprattutto non dà una grande affidabilità di governabilità, se non in caso di grosse coalizioni. Non è quello che dice lei, cioè un partito che si piglia tutto. Verrebbe a dire magari, come succede in Francia o in Inghilterra, dove poi però uno governa per 4 anni sicuramente, stabilmente, e poi dopo rende conto agli elettori. Su questo, però, secondo me lei ha capito male. Prego. No, ma su questo io non mi stavo riferendo alla situazione attuale, che sicuramente al 25% gli equilibri sono di questo tipo qua, ma uscendo un attimo dalla logica del momento, c'è la possibilità che ci sia una coalizione politica che arrivi a un voto, no, del genere. No, una coalizione no, perché il premio va al partito. Una coalizione, un partito politico singolo. Ma questo bisognerebbe che in Italia ci fosse un partito che ha più del 35%. Tenga presente che 35 più 15 fa 50, ma col 50 non si governa, ci vuole di più, perché altrimenti si rimane appesi a un voto. Però nessuno ha il 35%, quindi neanche nei sondaggi più rosei. No, ma questo qua è una questione. Io penso che una legge debba uscire da una situazione momentanea, per quello che altrimenti continuiamo a pensare a una legge elettorale pensata su una situazione contingente e non definitiva. Però va bene, insomma. Poi... Va bene, grazie, buona serata. Grazie a lei, buona serata. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo, poi riprendiamo 824 00 24. La Zanzara. Riprendiamo con Salvatore che ci chiama da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io ho chiamato poco fa per parlare dell'assessore Bisconti e delle sue affermazioni riguardo i biglietti delle partite. Io penso che l'assessore, io sono stato vice sindaco di un comune che confina con Milano fino a qualche mese fa, e qualcosa conosco dell'amministrazione pubblica degli enti locali. Penso che innanzitutto l'assessore non debba considerare come l'undicesimo comandamento delle tavole di Mosè una convenzione. Si può sempre modificare e trasformare i biglietti in denaro nella convenzione, in maniera tale che possono essere usufruiti per dei progetti magari legati ai servizi sociali o a qualcosa di un po' più utile che non far andare un consigliere a vedere una partita. E se proprio questo non si vuol fare, non si può fare, bene che i biglietti si mettano all'asta online, sicuramente Milan-Pescara andrà deserta, ma magari Milan-Inter, un posto in tribuna, si ricaveranno dei bei soldi. Quindi io penso, mi rendo conto che rispetto a questa nuova legge elettorale, rispetto alla chiusura dei tribunali, rispetto a tutti i problemi più seri trattati nella trasmissione, questo sia un problema minore, però è l'esempio che il politico in questo momento da leader deve dare ai cittadini. Quindi non condivido, benché faccia parte della stessa parte politica, sono dell'Italia dei Valori, quello che ha detto l'assessore. Va bene, grazie Salvatore. Salve, buonasera. Adesso parliamo di un altro fatto, che c'è una dichiarazione di questa sera da parte di un consigliere regionale dell'UDC di Ligure, che vogliamo capire meglio. Il fatto è questo: come sapete, domenica notte un cittadino marocchino è stato aggredito da tre italiani perché ritenuto responsabile di alcuni furti, ridotto in fin di vita e fin qua l'antefatto. Adesso Marco Limoncini, buonasera, che ci ha raggiunto, consigliere regionale UDC in Liguria, ha scritto sul suo profilo, buonasera. Buonasera a voi. Sul profilo Facebook, era un ladro, qualcuno doveva fermarlo, si è espresso vicinanza ai tre che hanno aggredito il marocchino. Allora, prima di parlare, riaprendo così il dibattito, se è giusto che i cittadini si facciano giustizia da soli oppure no, cosa che tra l'altro non è consentita dalla legge. Perché non è consentito dalla legge, però capire, esprimere vicinanza come ha fatto lei può essere diverso, però può essere anche abbastanza grave. Però la domanda prima di parlare di questo che io le faccio è: lei, che ha una responsabilità pubblica, prima di fare questa affermazione si è accertato che la persona che ha subito questo pestaggio fosse realmente responsabile dei furti che gli venivano imputati? E guardi, per mia fortuna vivo proprio a Cicagna, sì. Sono l'ex sindaco di Cicagna, e quindi conosco bene la realtà del territorio perché la vivo giornalmente. Questa persona purtroppo è autore di parecchi tentativi di furto ed è stato anche arrestato in flagranza, ma liberato il giorno dopo, una quindicina di giorni fa. E quindi diciamo che nella persona è un ladro abituale, è riconosciuto dal paese e anche dalle forze dell'ordine, ma chiaramente la giustizia tante volte non fa il suo corso e quindi, pur se arrestato, liberato il giorno dopo, questa persona si vantava di essere impunito e di andare a rubare liberamente in nuove attività commerciali, in abitazioni, minacciando pure anche alcuni di questi proprietari di attività commerciali che minacciavano di denunciarlo o comunque di segnalarlo, dicendo che lui comunque sa dove abitano, eccetera, eccetera. Detto questo, lei per queste frasi che ha scritto, credo tra l'altro sul profilo Facebook del comune, il quale lei non è più neanche sindaco. Sono presidente del consiglio comunale. Presidente del consiglio comunale attualmente, sì. Oltre che consigliere regionale, giusto quello che ho detto. Cioè ex sindaco, presidente del consiglio comunale. E consigliere regionale. Allora aveva la titolarità per usare il profilo del comune per scrivere che cosa? Sì, siamo come amministrazione. Sì. Perché ha suscitato alcune reazioni un po' preoccupate. Cosa ha scritto esattamente? È stato frainteso, perché quando, come diceva bene lei, quella frase non è compiuta. Quando uno dice qualcuno doveva fermarlo, poi prosegue questa frase, dice dovevano pensarci le forze dell'ordine. Quindi è chiaro che la frase cambia un po' il suo significato. No, e lei che cos'è che ha scritto esattamente? Ci ripeta, così capiamo meglio anche noi e vediamo se c'è stato fraintendimento. Prego. Che qualcuno doveva fermarlo, virgola, e questi non sono i cittadini, ma le forze dell'ordine. Quindi la frase che lei ha detto è questa, per cui diciamo... Esattamente, è scritta anche, rimane, quindi voglio dire, quindi è stata un po' presa in parte, quindi chiaramente è stata data una strumentalizzazione. Però c'è una parte che ha indotto probabilmente questa strumentalizzazione, non per fare l'avvocato di chi ha fatto il titolo sul giornale, però lei ha detto che esprimeva che cosa? Vicinanza nei confronti di questi tre aggressori? Ma vicinanza nel senso che purtroppo abbiamo letto un po' su Facebook, un po' anche sulle cronache locali, che venivano etichettati come assassini, ma noi come comunità cicanina non ci sentiamo di accusarli o comunque investirli di questo titolo, perché sono persone che hanno avuto tentativi di furto da questa stessa persona. Va condannato il gesto, ribadiamo, i cittadini non devono farsi giustizia da soli, perché tra l'altro uno di questi tre pare che fosse invece impegnato in delle ronde informali qua voci se ne sono uscite tante, in realtà non è proprio così. Una di queste persone aveva avuto un tentativo di furto forse anche più tentativi negli ultimi giorni, e questa persona è passata avanti, il marocchino, è passato davanti a casa di questa persona denigrandolo e ridendo pure di questo suo stato di libertà. È chiaro che poi gli animi si accendono. Poi queste persone sono state anche successivamente poi aggredite, uno di questi si è ferito perché il marocchino aveva una tagliente in mano e gliela tirata contro la mano, quindi diciamo che è degenerata la cosa, va condannata al risultato indubbiamente, però queste cose devono, la sicurezza deve garantire, devono garantirci le forze dell'ordine, questo è garantito, ci mancherebbe altro. Insomma, perché tra l'altro per un furto ridurre una persona in fin di vita Ma infatti anche lei mi insegna che se queste persone avessero voluto fare il linciaggio così come si legge, non sarebbero andati via scoperto, non sarebbero andati con la... E però di fatto è quello che è successo è un po' questo, perché se lei ha anche detto, a onor del vero, che augura un veloce recupero a quella persona. Io non so in che condizioni è, però i giornali hanno scritto in fin di vita per un po'. No, è fuori pericolo, ieri addirittura ha fatto interviste con i giornali, quindi diciamo la persona si sta riprendendo, chiaro. Il gesto è grave, indubbiamente, però non mi sento... È la giustizia che doveva fare il suo corso, sarà lei dire chi ha ragione e chi ha torto. Quindi diciamo, però, se qualcuno volesse prendere a pretesto, cogliere l'occasione per rilanciare giustizia fai da te o cose del genere, lei non sarebbe assolutamente d'accordo. Assolutamente no. Ci devono pensare le forze dell'ordine per fare questo. Chiaro che abbiamo necessità che siano intensificati anche le loro presenze nei orari notturni, siamo una piccola comunità, però purtroppo questi fatti sono all'ordine del giorno, quindi abbiamo necessità che le forze dell'ordine maggiorino la loro presenza anche nelle notturne. Va bene, grazie da Cicagna, Marco Limoncini. Grazie anche per la chiarezza, grazie a voi. No, grazie a lei che ha fatto chiarezza. Secondo me, cambiando un pochino quelle che erano i titoli delle agenzie, cioè non dico neanche ritrattando, perché forse era stata montata un po'. Poi questo è sempre un argomento sul quale una parola di più, una parola di meno può suscitare interpretazioni completamente diverse. 800 24 0024, c'è tempo fino alle 20:30 per intervenire anche su questo. Intanto TG1. Caso Grecia, vertice Merkel Hollande che dicono Atene resti nell'euro ma faccia le riforme, Stati Uniti economia infrenata, borse in calo. Il ministro Fornero, tasse sul lavoro troppo alte, pronto piano per i giovani dai partiti, stretta sulla riforma della legge elettorale. Ilva scongiurata per ora la cassa integrazione, il procuratore di Taranto, cercheremo di evitare la chiusura degli impianti ma stop alle emissioni. Dura risposta dell'allenatore juventino Conte alla squalifica, è una vergogna, io ho sempre corretto, condannato da giudici tifosi. Siria, le forze di Assad riprendono il centro di Aleppo, a Damasco e dintorni, raid casa per casa ed esecuzioni sommarie. Domani, ultimo giorno di AFA, costi altissimi per gli incendi, il ministro Catania al TG1, un piano contro le conseguenze della siccità. E una delle canzoni più cantate dell'estate si intitola Non vivo più senza te di Biagio Antonacci, da 6 settimane al primo posto in classifica. Nel brano viene recuperato il ritmo della pizzica pugliese. La Zanzara. 20:10, ben ritrovati in diretta. Andiamo con Marco che ci chiama da Verona. Buonasera. Sì, mi scusi, spengo subito la radio perché ero in un'altra stanza. Sì, prego. Ho sentito il suo intervento all'inizio. Sicuramente non è un fatto importantissimo quello di Conte, però vabbè, è un fatto, volevo commentarlo. Lei ha detto che è più o meno antipatico dopo le dichiarazioni che ha fatto oggi. Sì, ho detto che posso precisare così evitiamo di attribuirmi cose che non ho detto. Ho detto che sicuramente una conferenza stampa come quella che ha fatto non aiuta a acquistare consensi. E se poi lui dice sono antipatico perché vinco, forse no, perché una dose di antipatia c'è anche nel mettere in scena una cosa come quella di oggi. Tutto lì, ho detto questo. Sì. Ma lei pensa che Conte, dopo tutti questi mesi che è stato zitto, non aveva il diritto di esprimere un suo giudizio? Oppure dobbiamo castrarlo anche nel giudizio che ha dato oggi? No, ma per l'amor del cielo, lui è libero, siamo in un paese libero di fare la conferenza stampa. Non siamo in un paese libero perché dopo quello che si è visto, dopo questa sentenza, non siamo in un paese libero, ma siamo un paese di tifosi. Perché? Comunque, questo è il mio giudizio. No, mi spieghi il suo giudizio. No, mi spieghi il suo giudizio perché questo mi preme. Siamo un paese perché di tifosi. Non ci sono prove. Lei, per esempio, è un tifoso forte della Juventus. Io sono un tifoso, ma sono sempre stato molto obiettivo. Dopo Calciopoli ho messo la coda tra le gambe, sono stato zitto, ho accettato la sentenza. Mi è dispiaciuto che è andata in prescrizione la sentenza dell'Inter perché c'era in mezzo anche loro, vabbè, comunque c'è una legge, è andata in prescrizione, certo. Punto. Oggi invece... Ma questa volta non ci sono prove, si condanna un allenatore senza prove. Però senza mi scusi, prove. Chi è che dice che non ci sono prove? Lo dice lei? Il giudice non sarebbe d'accordo. Non ci sono prove, c'è solamente una persona che è questo signor Filippo Carobbio che... dice che Conte ha fatto questa riunione tecnica davanti a 25 persone e ha detto che dovevamo pareggiare la partita. Questa è la prova. Se lei pensa che è una prova, infatti a livello penale è stato derubricato e si sono messi a ridere i giudici a livello penale. La giustizia sportiva c'ha altre sentenze. Cosa vuol dire altre sentenze? Cosa vuol dire? Sono tutti interisti? Ma non sono interisti né romanisti, né è una questione allora? Probabilmente di... un giudizio da parte della federazione, dei giudici della federazione, completamente opposto a tutto quello che può essere invece la giustizia vera e propria, perché si giudica una persona con delle prove. In Italia c'è una giustizia e viene ogni persona condannata con delle prove o assolta senza prove. Infatti nell'altra partita il Novara Siena è stato assolto. Sì, ma guardi, a me non mi interessa entrare nel merito del processo perché non mi interessa entrare nel merito del processo è tale quale questi giudici che stanno giudicando Conte senza prove. Sì. Va bene, senza prove. E quella è la sentenza. Io penso un'altra cosa, semplicemente, Marco, che la sentenza va rispettata, ci sono gli avvocati pagati benissimo per fare tutti i ricorsi di questo mondo, non è ancora finita, ne vedremo ancora. Dopodiché poi si arriva a una sentenza che non taglia un braccio a Conte ma lo deferisce per 10 mesi, bisogna anche saperla accettare, criticarla magari, non secondo me con una conferenza stampa come questa urlando con la vena che esce fuori dal collo, cose molto forti, in quel modo lì. Questo è un consiglio che io darei a Conte, io non l'avrei fatto. E continuo a credere che non si sia acquistato nuovi consensi rispetto a quelli che aveva già prima Antonio Conte. Questo è quello che io penso, poi senza entrare nel merito del processo, perché lì poi diventa, non si può entrare nel merito, cioè si può, ma è una chiacchiera da bar, non può essere una conferenza stampa, non può essere una presa di posizione ufficiale. C'è una sentenza, si rispetta, punto e basta, e non si fanno, secondo me, tutte queste scenate, e non sono interista. Cosa facciamo? Facciamo la pausa per il traffico? No, non l'abbiamo ancora. Marco, è lì che ci ascolta? Sì. No, ha buttato giù. Volevo sapere se come la prendeva. Va bene. 824 0024. Ci sono ascoltatori che ci chiedono di non parlare più della Juve e di Conte. Va bene, insomma. D'altra parte, se gli ascoltatori invece chiedono di intervenire su questo, che vuoi farci? Traffico. La Zanzara. Poi ripeto, tutto parliamo di una sentenza sportiva, non gli è stato amputato un braccio, continuerà a prendere lo stipendio, probabilmente continuerà anche a fare allenatore ombra della Juventus, deve solo, credo, ora non sono nei meccanismi delle regole esatte, però non può scendere in campo, insomma, adesso sennò sembra che abbiamo ammazzato Conte, non esageriamo. Titoli della 7. Il salvataggio della Grecia al centro dei colloqui a Berlino tra la Merkel e Hollande, entrambi favorevoli che Atene resti nell'Eurozona, ma a patto che proseguano sulla strada delle riforme. La cancelliera tedesca rilancia l'invito a rispettare gli impegni e aspettare il rapporto della Troica. Per il presidente francese Atene deve fare tutti gli sforzi necessari per rimanere nell'euro e nei prossimi 2 giorni sarà lo stesso premier greco Samaras a incontrarli. Sull'Europa si addensano le nubi di una nuova recessione. Dagli Stati Uniti a sorpresa arrivano notizie di un aumento dei disoccupati e le borse del vecchio continente vanno tutte giù. Spread ancora in lieve salita, oggi è a 430 punti. Il ministro Fornero sottolinea la necessità di ridurre dalla tassazione sul lavoro. Si parla di decontribuzione per le imprese e attenti al capitale umano. In arrivo anche misure mirate per i giovani. Il leader della CISL Bonanni apre a un Monti bis, senza di lui, dice, sarebbe un'incognita. Il vice segretario del PD, Enrico Letta, è ottimista su un rapido accordo per la nuova legge elettorale, ma il PDL frena bruscamente. Per il capogruppo Cicchitto annunci intempestivi mettono a rischio le intese. Di Pietro preoccupato che la nuova legge sia peggio della precedente. Nuovo avvertimento dai magistrati di Taranto, le emissioni inquinanti dell'Ilva devono cessare immediatamente. Le conseguenze sono ovvie, secondo i sindacati, comunque l'azienda che sta investendo 146 milioni di euro per l'acciaieria, per ora non pensa alla cassa integrazione. Dopo la condanna in appello, l'allenatore della Juventus Conte si sfoga e se la prende con il giudice. Da lui cose mai viste. Forse la mia colpa è quella di essere alla Juventus e di vincere. Dal presidente del CONI una replica durissima. Basta, attacchi e polemiche. Marco da Como, buonasera, prego, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, in merito a Formigoni, secondo me è in un momento, in un delirio di onnipotenza. E in merito a tutta la vicenda che l'ha riguardata in questi mesi, a me sono state due le cose che hanno dato veramente fastidio. La prima è che si tirino in ballo i defunti. La Minetti è stata consigliata da Don Verzé e adesso Don Giussani che interferisce per lui e oltre al Papa prega per lui. La seconda vicenda, che quando è uscito tutto lo scandalo lui ha detto di non ricordarsi di essere stato in vacanza lì. Ecco, io sono stato nel 2003 nei tropici e me lo ricorderò per tutta la vita. Lui ci è andato per 3 anni di fila, sì. E ha finto di non ricordarsi di essere andato lì in vacanza. A me questo basta e avanza per screditarlo definitivamente. Poi lui doveva finire in Senato, è stato lasciato in Lombardia per non fare in modo che tutto il Nord Italia finisse in mano alla Lega. Queste sono questioni del Popolo della Libertà. A me queste cose danno veramente fastidio. Uno che finge di non ricordarsi di essere stato in vacanza per 3 anni di fila in posti così belli, secondo me, come governa una regione, quante cose gli sono passate sotto mano e ha firmato e chissà quanti casini ha combinato all'interno della nostra regione. È questo che a me preoccupa anche da cittadino lombardo e che per ormai 15 anni ha avuto a che fare con una persona simile. Va bene, poi, sì. Cioè, è assurdo, secondo me questa cosa, al di là di tutto, io... Sì, sì, va bene, grazie Marco, mi pare chiaro quello che lei voleva dire. Dove andiamo? A Marco che ci chiama da Roma. Sì, buonasera. Prego. Grazie, buonasera. Mi scusi, io devo purtroppo tornare sulla vicenda Conte, per un semplice fatto, che secondo me, anche se non è importante come altri argomenti, va fatta una corretta informazione. Io capisco i tempi radiofonici, però voi avete fatto sentire alcune frasi della conferenza stampa di Conte, sì. E li avete commentati in modo un po' superficiale, fermandovi soprattutto sulla forma e non sulla sostanza. Allora, cerco di essere molto breve. Avreste dovuto anche far sentire quello che hanno detto dopo Conte i suoi legali, perché i legali hanno tradotto in termini giuridici e puntualizzando a norma di legge e di regolamenti quello che è stato uno sfogo. Allora di Conte poteva che stare zitto. Allora facciamo così, era meglio se stava zitto. Quindi lei è d'accordo con me su cui io ho detto questo, ho detto che se lui ci risparmiava questa sparata, faceva parlare gli avvocati, era meglio. Quindi no, lei perché, è d'accordo con perché, me. Scusi, se lei mettiamo che lei viene accusato da un suo collega di non aver denunciato. No, ma lasci perdere me, parliamo no, di Conte. Perché... Parliamo allora, di Conte, lei ha appena stato... detto che bisognava far sentire quello che è stato detto dopo, perché Conte si è sfogato ma le puntualizzazioni le hanno fatte allora, gli avvocati, allora bastava certo, far parlare gli avvocati. Conte giustamente ha detto che la sua faccia è stata sbattuta in prima pagina, accostato alla vicenda scommesse. Prima di tutto Conte non è mai stato accusato di aver scommesso, ma nei media è comparsa questa cosa qui. Conte ha semplicemente detto che lui non ha avuto la possibilità di difendersi e io ho chiamato soprattutto perché lei ha definito ridicole le sue affermazioni sul patteggiamento. Ora, chiediamoci perché Conte ha detto quelle cose sul patteggiamento. Nel momento in cui la difesa non ha potuto fare neanche una domanda a Carobbio, cioè colui il quale ha accusato Conte, senza riscontri oggettivi. Carobbio, tra l'altro, viene ritenuto credibile a metà, cioè solo su una partita e non più su una partita. Va bene, Marco, queste cose abbiamo sentite dire mille volte. Io ho detto che la frase di Conte era ridicola, ma non per quello che diceva, perché era come dire, il fatto che lui se la prendesse addirittura con i suoi avvocati per aver fatto quel patto, un errore, ha detto. Ma non si va, secondo me, poi è una questione lui di opinione, in conferenza stampa a dire i miei avvocati hanno sbagliato. È un problema tra lui e i suoi avvocati. Lui non ci doveva pensare prima. No, lui non ha detto che gli avvocati hanno sbagliato. È un ricatto a quale gli avvocati sono ingiustamente si sono piegati. Perché gli avvocati non hanno potuto produrre testimoni. Va e bene, non Marco, hanno su questo però, sì, su questo però no, non allora bisogna però scusi. Vabbè, scusi, ha io detto non sto facendo che... polemica con lei perché ma io capisco che ci sono dei tempi radiofonici, però non mi va di stare lì a parlare ancora su questa questione. Tutti sanno i fatti, hanno tutti letto i giornali, la novità di oggi sono quello, le parole di Conte, e quindi facciamo un passo avanti, perché se torniamo a Carobbio la cosa non andiamo indietro e non mi interessa. Grazie Marco, fermiamoci qua, mi sembra abbia detto quello che voleva dire. Alessandro da Bari. Sì, buonasera. Innanzitutto vorrei farle i complimenti per la conduzione, a malincuore dovrò poi sentire il suo collega, comunque a parte questo, volevo fare un veloce commento circa l'intervento dell'assessore alla cultura di Milano, della giunta e dei biglietti relativi alle partite di calcio dello stadio Pescara. Quello che volevo dire è che relativamente a questi privilegi che hanno sia i consiglieri comunali della Giunta di Milano, ma relativamente poi anche, perché questa è una piccola questione, ma relativamente poi a tutti i privilegi che invece hanno tutti i grandi politici, quelli con gli incarichi più grandi che l'assessore alla cultura cercava di difendere anche dicendo che un politico che rappresenta la città, ma a me viene da dire che la città è rappresentata dai cittadini che hanno votato quel politico, tralasciando poi queste divagazioni. L'assessore dovrebbe rendersi conto, un po' come tutti gli altri suoi colleghi, che loro sono lì perché è il popolo che li vota, così come sono i cittadini per la giunta di Pisapia, e che privarsi di alcuni piccoli privilegi, quali possono essere 120 biglietti dello stadio, ad esempio, e stiamo parlando davvero di bazzetto, semplicemente ci fanno capire a noi cittadini, ci spingono a ricordare quelli che sono i privilegi di cui loro godono. Va bene, grazie Alessandro. Insomma, io credo che sì, finisca in 20 secondi, veloce. Sì, credo che pian piano si stiano accorgendo un po' tutti e penso di parlare a nome di tantissimi. Questa è una piccola cosa, questa dei biglietti, però sì, assolutamente cambiare. Grazie. Questa è una piccola cosa, questa dei biglietti, però ripeto, non è poi così piccola se si pensa che il comune è il titolare della concessione. Cioè emette la concessione nei confronti di chi poi gestisce lo stadio e quindi ha dei doveri, delle responsabilità importanti, e questo sta tanto di scambiettino, no? Come è avvenuto in passato. Allora forse è meglio fare chiarezza, eliminiamoli proprio come hanno fatto a Bari, a Firenze e a Pescara, e ripartiamo da zero facendo le cose che vanno fatte. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Prego. Senta, vado un pochino controcorrente. Questa lista di eletti, cioè di caduti, parlo della Camera, no? È sì. Stata quella che ha rivoltato il governo. Io da quando sono piccolo che odio andare a votare dove trovo il nome fatto, cioè la provincia, il Senato. Cioè, come mai si dice che devono essere per forza votati? Ma chi? Il piccolo a Roma con 50.000 voti perché si paga tutto? O di Orlando a Catania? Io non ci ho capito nulla, Lorenzo. Riprovi un attimo a spiegarsi, in 30 secondi però. Dicevo, perché questa legge elettorale che vogliono fare va a levare una legge elettorale che forse era bruttissima, ma che quando dicono che erano tutti paracadutati sono stati invece capaci di far cadere il personaggio che aveva paracadutati, giusto? Va bene, ho capito quello che lei dice, ma questo c'entra poco con la legge elettorale. Boh, non lo so. Antonello dalla provincia di Ancona, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo intervenire poco un attimo sul discorso di Conte, che naturalmente siamo tutti, oltre a essere un popolo di allenatori, siamo diventati anche un popolo di avvocati. Basta toccare una persona di parte che tutti si scaldano. Secondo me la cosa è molto semplice: quando e se verrà riconosciuta la colpevolezza di qualsiasi persona che commette illeciti sportivi, cioè che fa cose che dalla legge non sono, sono vietate, deve essere radiato. Persone che guadagnano milioni di euro si dovrebbero vergognare di fare determinate cose, ma perché non vanno a lavorare a 1000 euro al mese? Poi vediamo se gli prende voglia di fare determinate cose. Questi hanno funzioni di avvocati eppure e vanno a contestare, quindi lì Conte naturalmente tira fuori tutta la sua ignoranza in tutti i sensi, perché probabilmente prima c'ha gli avvocati, poi gli dice che hanno fatto il lavoro sbagliato, ma chi gliel'ha dato gli avvocati? L'ha scelti lui, e quindi qui ci siamo. Seconda cosa, volevo parlare del fatto di un suo ascoltatore, Oliviero De Milano, che era in disaccordo con un altro ascoltatore che parlava di non andare a votare. Secondo me è giusto, cioè secondo me sarebbe da non andare più a votare, perché lui dice di fare il cambiamento di cosa? I politici sono tutti uguali. Non c'è, secondo me è irreversibile questa situazione, perché tutti i politici, ognuno deve dare conto a chi l'ha votato eventualmente, e quindi di conseguenza deve fare Antonello, grazie, ci dobbiamo fermare qua perché il tempo anche per stasera è finito, sono le 20:28, c'è la borsa, noi ci risentiamo domani con la Zanzara, orario estivo 18:20:30, buona serata. Radio 24, la passione si sente.